l'accoglio. Non vuoi venire, venga. Chi c'è, c'è, Mitta? Ascolta, fate una cosa, io adesso sto scendendo. Se volete che io non entro, prendete le adesioni e chiamate al bullying. Così almeno prenotiamo e siamo tranquilli, dai. Io adesso sto scendendo, non so se devo uscire con l'ambulanza, boh, non lo so. Adesso vediamo. Ma io il numero non lo so del bullying. Ah, cercavo sulla guida il numero. C'è scritto bullying. Pizzeria bullying. Sì, ma io non ne ho guida. Che non hai guida? No, negativo già. Che cavolo mai, Giuseppe, non hai tu guida? Negativo anch'io, Gianni, perché io non ho manco telefono fisso, qui siamo tutti con questo benedetto cellulare. Beh, dai, ti avviserò io. Ma poco, Gianni, oggi è giovedì e domani è venerdì. Allora, quali ci siamo? Oh, io già ci sono sempre, già. Ma, vorrà questo. Metti un venello che ti faccio, Natalino. Scusate, faccio un attimo il bianco che vado a caricare un bicchierino, a vedere un po'. Sì, vai, vai, non c'è problema. Gava, gava, dai, sto riprendendo subito. Vai tranquillo, fai che siamo qui, non c'è nessun problema, fai pure con comodo. Gava, gava, dai, ti riprendo fra due minuti su qua, dai. Stamattina hanno sbrigato tutte e due le commissioni che dovevo fare, Giuseppe. Ebbene, Natali, tutto bene è andato? Tutto fatto, sia per il KB sia per la carta, tutto fatto. E su in via Roma l'hai fatto, Natali? Eia. Ah, K, meglio così, dai, almeno un altro pensiero in meno, così sei tranquillo, qualsiasi cosa venga fuori sei operativo al 100%. Infatti, grazie. Ah, c'era uno alla motorizzazione stamattina, e l'hanno trovato senza CQC, gli hanno sequestrato la macchina e quasi 800 euro di multa gli hanno messo. Sono, se non mi ricordo, 650 euro di multa e il fermo della macchina per 6 mesi, e in più devi pagare tutte le spese per il fermo macchina. No, gliel'hanno dato in custodia a lui, però non lo può muovere il camion, capito? Deve essere anche padroncino, visto, che è pittina. 780 euro di multa gli hanno messo. E cavolo, però, anche lui, Natali, da 2 anni era lì questa storia qui di questo benedetto CQC. E cavolo, in 2 anni io non credo che non abbia mai sentito nessuno che ci voleva questa patente aggiuntiva, dai. Eppure a me mi avevano fatto la spia 2 anni fa quando stavo lavorando al comune, me l'ha detto un collega, perché non ne avevamo nessuno C, ne avevamo tutti la D, siamo entrati per la C, però avevamo tutti la D, i colleghi anche, no? E quindi me l'ha spiato questo qui, ma detto, cazzo lo sai, Natali, così, così, così, so che è andata in fuimame e mi ha giocato subito. Hai fatto bene, Natali, hai fatto bene perché adesso non c'è più da scherzare. Guarda, io ti dico una cosa, magari tu mi direi che sono esagerato parlandoti così, però adesso è più importante la patente che abbiamo in mano noi che un portodarmi, perché guarda, oramai il guidare è diventato pressoché proibitivo, perché come hai potuto constatare anche tu stamattina, si controllano dalla testa ai piedi. Ti ripeto, è come, anzi è peggio che avere un porto d'arma in mano ormai, perché è la patente normale, è il CQC, è la carta di conducente e tutte quelle altre storie lì. Io vorrei sapere, a noi autisti dove vogliono andare a farci parare, Natalia? L'hanno fatto per il lavoro nero e per tante altre cose questo gioco qua, capito? E adesso devono adeguare anche i camion vecchi, quelli vecchi, ci devono mettere il tachio capo digitale, se no sono cavoli. E cappa, anche perché, lo sai perché Natali, la questione del tachigrafo con il dischetto, prima lo potevi modificare in qualche maniera, cioè qualche gioco lo potevi fare, anche perché, e potevi superare tranquillamente anche il limite delle ore che stabilisce la legge, no? E con questo digitale invece non puoi più fare niente perché hai un computer in macchina, mi hai capito? Ehi, a te fanno la scheda e sanno tutto, non lo puoi camuffare, no? Prima scendevi a Caglia e prendevi il dischetto e ce lo buttavi e ne facevi un altro e dicevi che stavi partendo da Caglia, hai capito? Solo lui se ti controllava le date, se ti vuole coprire, ti copri in Roma Tessa, che ti controlla i chilometri. O vabbè, poi ti ha fatto il collega. E scappa Natali, però qualche scappatoio in più c'era, col vecchio tachigrafo. Con questo proprio è zero e riporto zero, perché niente, diciamo che l'hanno studiata bene. L'hanno studiata bene anche perché a me delle volte è capitato di superare le 4 ore di guida, ma proprio ti avvisa lui, diventa tutto rosso anche il quadro della barra. Comincia a lampeggiare tutto quanto e ti dice che devi immediatamente cercare una piazzola di sosta e bloccare immediatamente la macchina, mi hai capito? Perché poi se tu continui, quello ti rimane in memoria e ti fanno un culo grande quanto una capanna. Sì, perché ogni mese va scaricato dalla ditta la carta, così è, no? E quindi là ti vanno la questura, ohia. Sono entrato, eh? Bene ritrovato, Pacchetti, benvenuto. Ciao, ragazzi. No, ripresente, ripresente. Sì, Natali, allora, si può scaricare l'azienda se si compra il software per poterlo scaricare, perché se no autorizzata è addirittura la Camera di Commercio, mi hai capito? Dica, devi perdere una giornata per poter tornare a lavorare. No, non è che perdi una giornata, è un apparecchietto che attaccano e fa tutto da solo, non c'è nessun problema, anche perché la ditta dove lavoro io l'ha acquistato e mi pare costi intorno ai 4.000 euro quel software, e c'è una presa, diciamo tipo una presa USB come quelle che hanno i computer, attacchi lì quell'apparino che è grande quanto un pennino che puoi usare nel computer, si scarica tutti i dati e via, e poi tu sei operativo dopo 10 minuti. Ma la ditta tua ce l'ha, cazzo, e ogni mese bisogna scaricarlo, così è. E cappa ogni 30 giorni. Figurati. E se nell'arco di questi 30 giorni si beccano qualcosa, sono dolori. Infatti, ma che vedi, mi si ti fermi, si parli di riposo, se corri, tutto ti segna ma la sorte. Addirittura io ho scoperto una cosa, Natali, che se tu fermi il camion e non lasci il moto, anche a camion fermo ti segna che tu stai guidando, E la scheda devi togliere. No, Natali, assolutamente no, quella la devi togliere proprio a fine turno. Devi spegnere il camion per 20 secondi, dopo lo rimetti in moto e ti segna alla cosa, la sorta. E risulta che tu non stai più guidando. E lì me ne sono accorto dopo un po', anch'io, ti devo dire la verità. Perché non riuscivo a capire il perché io facevo queste 4 ore di guida così in fretta. Perché mi segnava anche le sorte, mi hai capito, quando stavo scaricando. Ma se uno non lo sa cantare tutti. E così è successo a me, Natali. Adesso che lo so, io ad esempio arrivo dal cliente, no? Lo spengo, dopo 2 minuti oppure magari se il cliente non è pronto, lo posso anche riaccendere dopo 10 minuti, dopo 5 minuti, guardo su il tachigrafo e mi sta segnando la sosta perché proprio viene fuori il disegno del legno nel coso, no? Mentre prima venivano fuori due martelli, quindi tu risolvavi sempre in manutenzione, quindi operativo sulla barra. Cazzo, proprio. Bisogna saperle queste cose, Robin. Cappa Natale, purtroppo è così. E fai che, avanti tu, dai. Robo, sono cose che se non si sanno è meglio che si sappiano, perché se no ti mettono in casini veramente. Lì qualche, non c'è da sperare, perché addirittura le pattuglie quando ti fermano hanno una scheda loro data dal Ministero dei Trasporti e legge vite miracoli della scheda tachigrafa da a 6 mesi di distanza, mi capisci? Quindi se a me mi hanno fermato oggi ad esempio, tu vai a ritroso da oggi fino a 6 mesi, sanno quello che ho fatto io, e quindi sei penalmente diciamo sanzionabile, perché riescono a vedere dentro da quando ti fermano sino ai 6 mesi successivi, mi hai capito? Riprendi da lì. Aspetta che c'era uno che ha detto io, avanti. Io sono, sempre io ci sono qua. Cazzo. E così è. Se tu non ti sei rimato, sono 4 ore e mezzo di guida e 45 minuti di riposo, così è. Allora sono 4 ore continue di guida e 2 di riposo, che ti puoi frazionare come vuoi. Se non le vuoi fare tutte e due in una sola botta, le puoi dividere anche in sorte di mezz'ora, Natalia. Perché io sapevo che erano 4 ore e mezzo di guida e 45 minuti di riposo, e poi potevi guidare per altre 4 ore e mezzo. No, no, negativo, Natalì, 4 ore, perché dopo le 4 ore comincia a lampeggiarti tutto, sembra una discoteca dentro il camion, e comincia a lampeggiare tutto di rosso e per forza di cose ti devi fermare, anche perché io ti faccio un banalissimo esempio, no? Io adesso sto rientrando da Cagliari in barra pesante, no? E supero le 4 ore e sono qui, che ne so, all'ingresso delle gallerie. Mi avvisa la macchina che io ho superato le 4 ore, per forza mi devo fermare, perché dalle gallerie allo stabilimento ci vogliono altri 10 minuti, e io quei 10 minuti sono sanzionabile e mi ritirano la patente per 6 mesi, mi hai capito? Hanno cambiato anche gli orari di riposo, così, perché io quando ho fatto l'esame erano 4 ore e mezzo di guida e 45 minuti di riposo. Gatta, invece avanzo 4 ore di guida e 2 ore di riposo, te qua. Avanti Gianni, avanti che sei di nutri. Non ci sono andato là, dai, non ci sono andato perché devo fare questa telefonata, devo aspettare se c'è qualcuno che vuole partecipare. Se no telefoniamo e buonanotte, si può telefonare a mezzanotte. Non c'è problema già, tanto hai detto tu conosci qualcuno lì. Ma sei occupato, no? Quello anche quello tipo di feste di laurea e cose fanno in 20 persone, capito? Bisogna vedere. È meglio sempre telefonare in anticipo che in ritardo, perché se no dopo non c'è per mondo. Vabbè, se lei di pizzeria sa se ne ha pure. Ma guarda, io non lo so, se tu sei d'accordo con me aspettare 9, 9 e mezza, cosa ne dici Gianni? Sì, intanto ho un impegno alle 9 meno un quarto, quindi me ne sono dovuto andare. Sì, va bene, non c'è problema. Quando decidi tu, quando lo vuoi tu, come preferisci tu Gianni, guarda, per me, ti ripeto, non c'è assolutamente problema. Hai pienamente da parte mia carta bianca, in qualsiasi momento tu vuoi telefonare e ritieni opportuno di dire, beh, è tardi, e certe persone non si sono fatte sentire qui in modulazione, e siamo 4 gatti, e per me va bene, come vuoi tu Gianni, come ti ho sempre detto, per me va bene. E niente, sentiamo anche Natalia del Pacchetto, dai. Vagala, andate, non c'è problema, intanto il numero ce l'ho già qua, quindi me l'ho fatto mandare alla mia moglie tramite SMS. ti passa te la sigaretta. Sì, la sigaretta me l'ho pippata, me l'ho fatta anche un'altra, oggi, boh. Vabbè, me ne stavo per tornare a casa e mi ha telefonato mia moglie, devo andare a prendere la mia figlia, me ne avevo per un quarto, che sta studiando la mamma, adesso vado a prenderla e poi me ne viene fra casa, Cappa che positivo, non li prendi la tarifa. Chiara, chiara, io ci ho messo la mano sopra il termosifone a vedere se scalda. Ti l'è bruciata. No, negativo. Cappa, cappa. Va bene. Adesso vedrai che con la doppia fino al 2001 sarà tutta un'altra storiella. Perché io stamattina ho buttato una bella piastra in alluminio per la presa, sarà presa almeno un centimetro. E soltanto bisogna trovare adesso un punto dove praticare magari un foro sulla capota per poterci far restare anche la cosa, questa piastra. Perché dove è sistemata adesso l'antenna proprio non è, cioè ci sta una rondellina lì dentro perché è uno scatolato con dei fori piccoli, mi hai capito? Pare che si troverà una soluzione, quello non è un problema. Anche perché io domani vedo di procurare un tappo, c'è un carrozziere che sta dietro di noi, e poi niente, con del silicone gli metto quelle tappo lì e quel foro lo sistemo, tanto se non si vede niente. E la vuoi mettere dietro? È negativo Gianni, dietro proprio non ho nessun appiglio dove metterla, hai capito? Perché hai visto come passa la barra? Cappa, è vero, e lì non lo puoi mettere. Ne ho visto uno stasera, un trattore che ce l'aveva dietro, preparato un po' 2001. C'è dietro perché loro hanno più spazio, Gianni, e io sono limitato perché c'è quella benedetta centina. Beh, se lo troveremo un punto a voi, a questo di metterlo al posto dell'antenna che c'è. Ma guarda, io ti dico una cosa, anche mettendola a filo di spoiler, perché quel cacchio di spoiler, guarda, mi sta rompendo le scatole, oppure al limite, trovando io il punto l'avrei già trovato, a dir la verità, soltanto che sicuramente bisognerà fare un foro finissimo su nello spoiler e far sbucare un pezzo d'antenna. Cappa, è quello che ti stavo per dire io, però bisogna vedere se l'antenna ha problemi, se tocca magari che ti dia problemi, se tocca camminando, capito, tocca da una parte all'altra del buchetto, magari ti dà problemi. Ma vediamo un pochino già, dai, perché... Ah, piuttosto, una cosa avrei voluto sapere, ma quell'antenna lì, la sacco come ce l'ha a capota, con piede oppure con attacco normale, come ce l'hanno ad esempio le autoradio? No, l'attacco così come l'autoradio, la brugola, mi pare che ce la chiama. Ah, ho capito, dai. E perché, ti ripeto, se avete trovato una qualche sistemazione per metterla, questa 2001, dove l'altra, mettendoci una rondella per tenere questa antenna qui, quanto deve essere di cosa, di diametro? A me pare che un rondellone in acciaio ce l'ho io, te lo cerco, se ce l'ho, però forse bisogna allargare il buco. Ce l'ho io, forse un rondellone. Sì, ma grosso modo Gianni, quanto può essere di diametro questo rondellone? Perché ti voglio dire una cosa, se ci sta in quella posizione dove è già piazzata la PC4, ci strampiamo dentro quel rondellone, guarda, e ci evitiamo un casino di lavoro, credimi. E saranno 5 centimetri più o meno. 5 centimetri? E allora mi sa che ci passa. E proviamo. Non c'è problema. come mai, adesso guardo stasera se la trovo, se la metto da parte, tutto sta ad allargare il buco e basta. La cosa nel rondellone. Dica. Ma dai, per quello non c'è problema, perché io da domani mi metto in macchina la cassetta degli atleti, prolunga e porto giù anche il trappa, non ha fallito, tu che cosa dici? Non c'è problema. Ma Bologna ce n'è sopra la cabina lì. Se noi facciamo la zappa e non buchiamo niente, deve solo la zappa mia da te. Come fanno tutti? Natali, ci sono i bolloni delle cose, delle... hai visto su io c'ho quella specie di parasole che è lungo tutto quanto la cabina, però non so se lì prenda massa, mi hai capito? Tu fai la zappa e poi ti posso vedere se la base la massa. La staffa, però bisogna procurare anche dei bolloni adatti poi, perché facendo la staffa quel bollone lì non arriva più, mi hai capito? Perché lo spoiler è fatto spoiler, quelle parasole fatto in plexiglass fumi un pochino di diciamo per appuntire il sole, mi capisci? Sì, ho capito, il bullone più lungo ci vuole, basta guardare da quanto sono e si buscano da carbone. Guarda lì. Tutti ce l'hanno con la staffa, ce l'hanno, mi... come si chiama? Cosa c'ha la staffa dietro, ci ha messo? Senti, ce l'hanno tutta avanti, cioè, al fianco, la puoi mettere all'alterno, come ti pare ti piace. Avanti Facchetto, stavi cercando Natalino, avanti Facchetto. No, perché volevo dire che non è a brugola, cioè riferendo a Gianni, non è a brugola il bullone che c'è, è con la numero 10, capito? C'è la testa del numero 10, perché non c'è problema a metterle la vite con la chiave a brugola, eh? No, per problema, poi sì, come ti pare ti piace, a tutti i pini qualche, a marrangio e qualsiasi cosa. Avremo problemi di avvitare un bullone. Sotto con la bulloni la vite che tiene la base dell'antenna. È tutto risolto il problema, dove sta il problema? Certamente rondelluni contro rondelluni, capito? E la staffa si capisce, sarà, non posso dire, 10 cm, si è abboccata, quindi gli avviti con il bullone, è finito il discorso. E qua se si fa la staffa. Non c'è bisogno né di rondelluno né di questo né di quell'altro, perché è abitato al bullone della cabina e l'antenna è dall'altra parte, quindi non ho quel problema se facciamo la staffa. Adesso vediamo, là, se riusciamo a metterla nella cabina la mettiamo nella cabina e se no facciamo la staffa e la posizioniamo dove vogliamo noi, in modo che non dia fastidio l'antenna, perché è un bel altro quell'antenna mio, o Giuseppe. Alta e grossa di stilo, eh. Infatti, io è per quello che Natali non so manco dove metterla, perché proprio dietro la cabina non ho nessun appiglio dove poterla mettere, capito? E la mettiamo dove si può mettere. E qualche bullone, riavvicci una staffa e poi l'antenna. Molto ci vuole, non ci vuole niente. Fare quel lavoretto. Ascolta, tanto Carboni il sabato mattina è aperto, vero? Penso di sì. Ecco, quindi lì la piattina la posso trovare, perché? Oppure la prendo direttamente, però non so manco quanto prenderne di piattina se non sappiamo dove va messa la zappa Natali. Ehi, avanti. Buonasera a tutti. Ciao Mario, buonasera per entrare. Giuseppe, comandi Mario, buonasera e bentrovato. Io non comando nessuno e niente. Buonasera a tutta la ruota. Non faccio i nomi così non me ne perdo neanche uno. Giuseppe, guarda che di solitamente i tuoi colleghi, l'antenna del baracco, ce l'hanno attaccata allo specchietto retrovisore. Fanno la tappetta e la agganciano lì. Papa Mario, ne ho visto anch'io parecchi, infatti stavo guardando stasera, però lavorando non trovo il tempo per poterlo vedere bene, lì è cosa proprio da vedere sabato mattina, smontare quella placchetta che c'è sullo specchietto retrovisore, mi avvicino un attimo da Carboni e la prendo la tappa. Papa, se no deve bucare la cabina. La cabina sopra c'era già il foro, infatti ho già l'antenna, la PC4 della Midland, però è molto più corta della 2001. E se non mi ricordo bene, allora vediamo un po' se ha memoria più buona di me Gianni. E quanto può essere più lunga Gianni la 2001 di quella che ho io? Quindi me ne frega un altro metro. E quindi deve essere, ecco, vedi ecco, perché deve essere ancorata bene. Oppure allo specchietto, dai. Io non è che sia molto favorevole dello specchietto, perché non ha massa riflettente, bisogna vedere come va. Io sì, li ho visti anche io, però li ho visti anche con doppia antenna in parallelo, che hanno messo due antenne, una nello specchietto e una nell'altro. Sì, ma vuole a sinistra sempre, se no magari passi sotto là e vuole ricatta di... Vabbè, dai, già troviamo la maniera di metterla, non c'è problema. Dove c'è già quella esistente e magari dargli appena appena l'inclinazione, perché lo spoiler come avete visto è abbastanza inclinato e niente, e poi ne ho visto altri, dai, che ce l'hanno sulla cabina e sono con l'antenna altissima, non penso, anche se tocca un ramo dove sto passando, tanto quando passo o entro la clienti entro diciamo a passo d'uomo, perché viaggiando rami sulla 131 non facciassi. Tia, ma se tu entri da qualche cliente non c'ha dove entri da qualche cliente e c'ha l'affare basso, tocca, anche in deposito tuo, se mi è sembrato un bel basso la situazione, tocca lì. L'ingresso che abbiamo noi sarà 5 metri in affari, 5,50 penso. E la cabina quante asce? C'è da calcolare anche quello. E io ti voglio dire, vabbè dai, già dobbiamo controllare la situazione, che è meglio. E la macchina è nuova, di poco danno fa è migliore. E infatti, anche perché io ho parlato, quando l'ho portata per fare il primo tagliando giù alla Mercedes, mi hanno detto di non fare cappellate sin quando la macchina è in garanzia, mi hai capito Natalì? Perché poi non vorrei magari passare i casini io per una fesseria, ecco. Se da voi non passa in garanzia, chi l'ha educata, tu è un casotto, un prigioniero, è isso e ti voglio dire. Cappa Natalì, sono perfettamente d'accordo con te. Avanti pacchetto. Non c'è problema, un modo si trova sempre un modo per piantarla, non c'è problema. Capito, ma Giuseppe, non c'è problema, già si trova il modo per piantarla. E cappa, io tutt'al più, anche se riesco a trovare un pochino di tempo domani mattina, vedo un po' se riesco ad avvicinarmi da qualche parte, già comincio a prenderla, che ne so, una tappa anche da 10 cm va bene, no? È positivo, già va bene. Ok, poi per fare i fuori, come ho detto poco fa, mi organizzo già da domani, carico la macchina con le cassette degli attrezzi e via. L'unica cosa, Nathalie, Salvatore, perché il mio mi sa che è andato. Sì, mi devo comprare la bombola del gas, la bomboletta del gas, e ce l'ho anche a gas io, Salvatore. E così non deve attaccarmi sul filo, nulla. No, tranquillo, Nathalie, tanto io metto in macchina la prolunga, non c'è problema, anche perché io cerco di lasciarlo fuori il camion, sotto la tettoia, così lavoriamo bene e siamo già all'aperto, anche se siamo riparati da tutta quella tettoia, hai visto lunga che c'è. E calma, non c'è problema, se no lo dai un dia, ne ritira fuori e ti rubano il dentro al ma chi so cancello non siamo entrati noi, capo che lo guardo davanti. Papà, Nathalie, non è un problema quello lì. Niente, poi già vediamo poi come sistemarla la cosa, dai. Se poi vuol salire anche il pacchetto, per me non c'è problema, anzi, sarà un piacere per me, dai. Comandi Mario, eccolo qua, Giuseppe Tornado, sempre presente. Ascolta, guarda che ci sono anche molti tuoi colleghi che ce l'hanno agganciato giusto dietro la cabina dove guidi tu, per quello se non c'hai il rimurchio domani mattina quando ti avvicini al camion guarda dietro se c'è qualche punto dove ti puoi ancorare l'antenna, perché molti ce l'hanno proprio dietro la cabina dove guidano, alla parte proprio verso lo spigolo. Domenico, buonasera, in compagnia qua di Giuseppe, Natalino, Mario e Gianni Doppiorù. Avanti per i saluti a Domenico, girate e fate girare. Sì, buonasera Domenico, ben trovato e buon tutto, stai arrivando qui come un missile, avanti Natalino. E io stavo salutando, ci siamo sovrammodulati, Giuseppe. Ciao Domenico, ben entrato, avanti Gianni. Ciao Domenico, se mi ascolti, buonasera. Forte e chiaro, dai, forte e chiaro. Tornando, stavo ascoltando il discorso, che macchina c'hai? Un Mercedes, il 2355. Il 2355? Ma nuovo? K. Anche con il cambio intelligente. E come questo, se no ti passata, Domì. E niente, faccio come hai detto tu, dai, prendo la stampa e la, perché io sulle, diciamo sulla cabina all'altezza delle, della guarnizione del cristallo ho quello spoilerino, diciamo fumé, per il, che funge anche da parasole, mi hai capito? Sì, a positivo, però fissa la scopa, tra i coloni da 13 che ci sono che vanno alla, proprio attaccati alla cabina, perché gli altri sono di plastica, capito? No, no. C'hanno delle filettature in plastica e non fa la massa lì. Avagava Natalì, grazie, Natalì, dove? Grazie. Niente, ricordo, già ha fatto, capito? Allora ti sto dando le indicazioni giuste come ho fatto io qua. Ok, allora vedo di procurarla direttamente in ottone domani, mi sa che ho già visto qualcosa stamattina vicino a dove lavoro io, ci sta Marcetto, e aveva una bella barretta in ottone, e niente, me ne faccio tagliare un pezzo da 20 cm, poi giù quando stiamo facendo il tutto ce la possiamo modellare come vogliamo. Di nuovo tante grazie. Niente, riprendi la Natalia. Cara, cara, via, è ben andando da me. E a positivo, sto andando, mi va a lenta. Riprendi già. Già, no, riprendi il palchetto. Ehi, ciao Domenico, buon trabacco, dai, da parte mia. Sempre a noi aspetta, dai, c'è poco da, da cambiare le carte in tavola, dai. Sempre andando, guarda, ecco dove farci, è arrivata la nostra, bisogna uscire. Gappa, riprendi Giuseppe. Sì, grazie Falchetto. E beh sì, quando arriva l'ora per forza di cosa bisogna salire e niente, andare sull'acceleratore e sulla portante del baracchino e sperare che qualcuno sia sempre in ascolto. Avanti Domenico. Natalì, e basta, io ce l'ho con Natalino, Domì, dimmi una cosa, ma tu hai anche il, aiutami a dire, il tempomat sulla macchina? Sì, io sto pilotino, il tempomat e il limitatore, te lo posso limitare io, ma la velocità che voglio, tutto che è positivo, positivo, Domì, proprio allora sono due gemelline le nostre macchine. No, che quello è un trattore. Sì, sì, ma come, come concezione di cosa, di strumentazione sono pressoché identiche. Se sono la stessa marca. Andà bene, andà bene. Avanti il Falchetto. Positivo, facciamo riprendere a Domenico se c'è ancora. Avanti Domenico. Non sono riuscito a copiarlo a Domenico, mi puoi far tu da ponte per gentilezza? Ha detto che il baracchino lo devi tenere lontano dal tachimetro, capito? Se no disturba il tachimetro. Sì, K, saranno, che ne so, 80-90 centimetri lontano dal tachigrafo. È copiato Domenico. Vicino sopra il tachigrafo che gli fa male, da fastidio, a metterlo nel cassetto fianco, capito? Ah, capo. Ma stavo dicendo di mettere il cassetto a fianco. Hai copiato, Giuseppe? Cappa, ce l'ho nel cassetto a fianco all'autoradio. Anche perché tra l'autoradio e il tachigrafo ho un altro cassettino sopra. Ma io ne sono guardato bene dal piazzarlo, perché pensavo che potesse dar disturbo sia al tachigrafo che all'autoradio. Positivo. Hai copiato Domenico? Positivo, va. Andà bene. Dovrebbe andare bene, Giuseppe, dai. L'importante è che sia staccato dal tachigrafo. Kappa, non so se voi avete sentito, forse c'è stato un break. Avanti, chi deve entrare? Buonasera a tutti, buonasera a circolare a tutti. Avvela che fa chiamata, copia. Buonasera Avvela, ben trovato e ben risentito, cambio. Ciao Pierpa, buonasera, ben entrato. Ciao Pierpa. Ciao Pierpa. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Come oggi Pierpa? Sì, io a quest'ora, io a Tirettini. Io? Gianni, cosa ci fai qui? Io a Nana, dai. Sto facendo il dovere di padre. Stai facendo il dovere di padre, non lo fai bene, non fai, va. Ti perdono, eh. Era per Emanuela. Grazie amico Doppio, dicevo poc'anzi, ci siamo messi sopra modulati, o con te o con Natalino, chiedevo poc'anzi all'amico Pierpaolo come va. Come va? Sento lo stesso solo, oggi mi fa male anche la gamba, tutto bloccato solo, ma già va bene. Credimi, mannaggia, ma io dico questo, ma potevamo essere come le macchine, un'entrata veloce veloce in officina, un tagliandetto così al volo e poi su che andiamo. Capo, non tutto si può ottenere però dalla vita, ogni tanto qualche pezzo vostro si guarda come le macchine. Avanti Mario, buonasera. Buonasera anche a te. Vabbè, io non ci vuoi fare, tutto fa brodo. Io mi sono seduto perché ho detto, stanno chiacchierando tra di loro. Ha detto, a me manco mi ci pensano, e invece qualcuno mi pensa. Non ti penso io Mario, non ti preoccupare. Non ti dimentico io, sei vicino a me, mi faccio il rotto, figurati. Avanti Natalino. Un attimo di bianco che sono al computer e sto guardando la situazione. Da un ridere che non è quello che pensi tu, maledetto, malissimo. Cosa abbiamo rimorchiato? Oh, sto cercando le donne nude nel computer. La fantasia. Lasciata Domenico il parcheggio, Domenico ci copia ancora. Attento Domenico, sveglia! Domenico ci ha mollato. Mario, ci ha mollato Domenico, mannaggia l'ostia. Va bene, dai, magari anche un po' in zona negativa, dai. Già riprenderà il suo messale su. Hai capito? A che altezza era, fa che? Vicino, magari lì sotto Campomela, magari, lì è una zona non adatta, No, negativo, dopo le gallerie lì, la cimenteria, dai, lì è un po' negativo per tutti, capito? Adesso proviamo a rilanciarlo, se ci copia ancora. Attento, Domenico, se vai copiando. Negativo, riprendete, dai, riprendi tu Giuseppe e fai girare. Sì, grazie Falchè. Se non ho sentito male ci dovrebbe essere Capri 2 in azione. Vediamo un po', avanti Capri 2. Break. Avanti. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Buonasera a tutti, Antonio Bombo da questa parte. Benvenuto Antonio, qui è Tornado, avanti Falchetto per i saluti a girare. Positivo, vai. Salutoni Antonio Bombolo, avanti Mario per i saluti. Ciao Bombolo, come va? Stanco oggi? Cappa, stanco, siamo quasi a metà settimana, siamo. Sono stanco. È metà settimana, è finita la settimana, domani è venerdì, siamo a metà settimana. Oh, vabbè, a metà settimana se tu lavori anche domenica. Pure tu c'hai ragione. Vabbè, comunque, sta finendo la settimana, con stanchezza ce l'ho, ma... Già no, non riparti nulla, dai. Oggi sicuramente hai lavorato male, tutto il giorno pisciando. No, io lavoro, non pisciano. Hai capito, una mazza. C'è la giornata, oggi hai lavorato male, tutto il giorno pisciando dal cielo. Ah, cappa, tutto il giorno piovendo, vabbè. Ma ci si arrangia, dai. È una rottura di scatole quando piove. Gappa gappa, è una rottura di scatole ed è anche pericoloso, perché il ferro quando è bagnato tende a scivolare. Vabbè, ci diamo più attenzione, è la crampa e muove. Gappa gappa, riprendi Pierpa. Yeah. si bossava lo ubriaco, ogni volta che passa la sala scia. E qua! Luca! E cosa se poco me? Ciao Luca! Ciao a tu! Ciao a tutti, caragano! Ciao Luca! Caffa! Mario, oi oia! Non manda a litigare, ma se ti dico che lo conosci senz'altro, guarda. Boh, non lo so. Caffa. Un guascio, E chi ci pone sempre la portante, lì? Oh, Mario? Dimmi. Sicuramente sarà il signor Porco? Ma io non lo conosco, è poco, è agnone, boh! Illuminate, se no ci mette la portante. Noi stiamo parlando solo dei suini e degli ovini. Certo. Cava, cava. Ok, faccio un attimo di bianco da parte mia, riprendete. Ok, rosso di sera. Il tempo si spera, se vado a piegare il bicchiere, se lo vuoi. Sì, caricato, caricato, anche stasera, È positivo. Guarda che se poi è di quello buono, uno tira l'altro, come le ciliegie. Ehi, Mario, così, ma dopo una giornata di lavoro ci vuole, di Mario, se no guai. Gappa, gappa. Vai, fa che quello fa sangue buono alla nostra salute. Eia, alla mia, alla vostra, dai. Mario. Me la. Allora, la sera, da noi ha detto un po' di cazzo o meno. Oggi la conclusione la voi ha fatto un pacchetto. Ma te devi arrabbiare, tu la sai che si è arrabbiato un bel e non era manco un caso, uno, ma cosa gli hanno fatto i danni di chi c'avevi di brutto, ma di brutto mi, e paria proprio, così che figurate un poco, se mi era arrabbiato pochissimo, ma fa così poco, quello lì è come può essere, cosa è? Una buccia attaccata a una delle parte, la stessa cosa, la buccia di cucciolette ne vara, e così sono vedi. Sì, Pierpaolo, eravate 10-1 per te, comunque lo confermo anch'io alla grande. Portante 1, Pierpaolo 9, cambio. No, ma non è quello, vabbè, io. Ma la gara non passo, se no. Io che cazzo tiro la mano bella e non passo, io glielo passo, no, come no, che posso vedere. Ma non è quello, è che me due o tre me li copre, capito? Metto la portante, due o tre me li copre. Per adesso non ci sono problemi, già passo il Maradona e quella volta muro. Comunque non c'è problema, io ho preparato stamattina la miscela per la motosega per campagna, te ne passo un litro e niente, tagliamo da sotto e via. Oh, che cappa di posizione. obiettivo Pierpa, e non ci fa problema. E chi abbiamo in parcheggio che voi sappiate per far girare anche lui? Voce, col tempo che è andato a riempire, c'è qui in QRG, Natalino che era il computer, non so se è rientrato, poi ci sei tu, c'è Antonio e c'è Mario, vi lasciamo Natalino, sei libero, se sei liberato, avanti Natalino. Cazzo in auge! Come sta andando il film? Magafilm, che se chi era mettendo in coso del ufficio di collocamento, la sua pizza. Ah no, che credo che stavi guardando un filmino, chiedevo che punto erano. Ma che cavolo filmino, non so manco come andare a cercare questi filmini. Oh yeah. Anche di Luca, Luca, ci sei? Ecco Luca, mi viene il panino, ma te sei di buio, se non l'ho sentito male io. Cosa? Luca, mi sa che è uscito momentaneamente, se non ho capito male io. Non ho sentito, stavo via, poi. Poi, quello è peggio di Alessio, cazzo, una dirighetta e da un canale all'altro. E poi magari sono attaccato al computer, quindi pensa tu. Vediamo un po' se ho sbagliato io, dai, probabile. Avanti Luca, se sei in ascolto, cambio. Vedi, non ti degna, non ti degna, Giuseppe. Luca non c'è, è andato via. E in un altro canale. Mannaggia, dove sei? Oh, mamma mia. E avanti Antonio, tutto per te, la ruota è tutta tua, su che andiamo? Aspetta, ma come la chiamo adesso? Il tuo per va? Maxo. Un attimo il break, se non ho capito male, un attimo solo. Mi hai copiato per va? Assolutamente no. Ma dai, c'è piccolino. Serve a me quello, un galbratteri. Se non mi sono di calza, però avrei avuto un 48 qua e non avete super risciuto. È bello, per fa veramente un niente, tanto di capello, dai, è inutile che si nasconda la verità, veramente bello e niente, complimenti perché è veramente un bellissimo apparecchio. Questo qua di canale c'ha piccolo ma c'ha canale da vendere. È positivo Pierpaolo, positivo. Quello lo sai com'è, è la stessa grandezza di quello di Natalino. Senti Pierpaolo, ti volevo dire se quando ci sente per quella questione là, se in verticale ne possiamo discutere. Sì, ne possiamo discutere. Ma per Paolo, sapevo che sei un amico e niente, e potevo contare su di te e questa è la conferma, dai, e avanti Pierpa. Ah beh, ok, ma Mario, sto dicendo qualcosa, avanti. No, niente, non stavo dicendo nulla, io stavo dicendo che Luca sparisce come una telegetta. Natalino se ne va a guardare i filmini porno, il computer, e poi per poco, chissà se sei uscito, e già due lì che non intendo. No, c'è la famattina. Mario, Pomponio, mi sa che ho sentito che domani mattina alle 7 deve fare presto perché alle 7 del mattino deve essere già in Corsica. Io lavoro, non è che sto tutta giornata attaccata all'apparato. dire che io per sabato mattina ho un appuntamento con Pomponio, siamo rimasti d'accordo di sentirci per le 9 qui sul 21. Niente, ma se lui è in Corsica? Pierpaolo, c'eri anche tu ieri quando ne stavo parlando, mi doveva fare quella commissione e niente, siccome io il numero di telefono suo non ce l'ho, chiedo gentilmente qui alla ruota, nel caso qualcuno lo sentisse, se può far fede all'appuntamento che mi ha dato, se no non c'è problema, magari si può fare tranquillamente un altro giorno. Mi avete capito, senza nessun problema. Ma che problema, domani te lo trovo io. Grazie Pierpa, anche perché io se scendo giù in stabilimento e sabato mattina per fare quella cosa lì, se lui può scendere Pierpa, io non lo aspetto qui in modulazione sino alle 9, perché mi alzo presto, mi carico la macchina con tutti i ferri, e se lui può scendere mi fai gentilmente Pierpaolo la cortesia di dirgli dove sono, fatto se sei stato anche tu giù in stabilimento. Ma non c'è problema, tanto fra un po' entrerà qui, fra un po' entrerà, o adesso più tardi entrerà, ma comunque non c'è problema, carico il telefono io domani. Grazie Pierpa, non sapevo di poterci contare, dai, e a tu, avanti tu adesso, dai. Già lo contattiamo, non c'è problema, è vero che non sia all'ascolto, è andato a letto prima stasera, perché doveva fare quella cosa là. Ma Anto, vi rubo solo un secondo perché ho Veronica qui che vi vuole salutare e vi vuole dare la buonanotte, un attimino solo. Buonanotte a tutti. Buonanotte anche a te. Ciao Veronica, buonanotte. Ciao. Ciao Barocci. Ok, anche Veronica odia, aspetta vero, anche però. Già tenibile la macchina alla mano, vista ya. Fidati. Natale, chissà è un furetto, mannaggia, infatti mi ha detto, papà, mi fai salutare? Ho detto avanti, ho detto c'è Pierpaolo, c'è Antonio, c'è Natalino, c'è Mario, ci sono tutti, niente da fare, ti devo dare la buonanotte, devi dare la buonanotte a tutti, e così anche voi li avete avuta, avanti che stava parlando. E capai, buonanotte piccolina. Giuseppe! Avanti Mario! Guarda che Pomponio! Sicuramente dovrai andare a prenderlo, capito? Perché lui macchina non ne ha! Mario, per me non c'è nessun problema per andare a prenderlo, perché noi eravamo rimasti d'accordo di sentirci, cioè accendere l'apparato alle 9 sabato mattina, ma se lui mi dice che io alle 9 posso andare a prenderlo e che ne so, in tale via, per me va benissimo. Cappa. Vabbè, là, se lo sento io glielo ricordo, non c'è problema. Va bene Mario, non c'è nessun problema, anche perché io volendo ti avrei potuto lasciare, che ne so, anche il mio numero di telefono, se lui mi vuole chiamare e dirmi Giuseppe, io sono pronto, puoi venire in tale posto a prendermi, non c'è nessun problema per farlo. quanto mi riguarda. TH, poi già, in un modo o nell'altro te lo faccio sapere, da. Grazie Mario, grazie, grazie veramente. Ok, proviamo Mario a vedere un attimino se è rientrato l'amico Gianni, dai. E io sono solo scusa. Poi ciao carissimo, avanti, riprendi tu Gianni. Riprendo però tutti che c'è un attimino in bianco, là, che sto facendo roba, già sono qua la scusa. Kappa Gianni, kappa, avanti Falchetto. È positivo, dai, anch'io faccio un attimino del bianco, sto andando a QTH piccolo. Muy, muy bien, Napalino è tutto tuo, avanti. E Kappa, riprendo per salutarvi io che me ne vado a letto. Già, sentiamo domani al limite. Ok, alle prossime, dai, salutoni a tutti, così non sbaglio, non faccio nomi, almeno salutando a tutti. Credetti per me, dai. Ok, buonanotte Natalino. Ciao Natalino, buonanotte, non guardare il torpedo menù dal computer. È già aiutato, e mi disocamendo a letto, ma la faccia di chi non vuole, dai, ciao a tutti. Ciao, buonanotte Natalino. Napalino, buonanotte, niente, ci risente presto. Ciao ciao Napalino, buonanotte. Avanti l'amico Pierpaolo. Adesso anche Pierpaolo mi sa che c'è ora. Se va a mangiare qualcosa, se no lo stava come stava a pugni. Riprendo fra un paio di minuti, dai, vedo che cosa c'è. Vai tranquillo Pierpaolo, buona carica, vai tranquillo. Ma per papà, la carica, se coincide ci risentiamo più tardi, se no niente. Ma, Giuseppe, ma oggi ne ha dato una risassa ieri, Giuseppe. Zona di Sassari, anche domani sono in zona di Sassari, domani ho la zona di, mi faccio Sassari e tutta la zona di Alghero, in maniera che poi a inizio settimana siamo operativi per coprire tutta la Sardegna. Caffa. Ma se solo tu sei lì o ci sono anche altri autisti che entrano lì a caricare? E Kappa, tanto ci sono io, c'è anche l'altro mio collega autista, lui domani è nel Nuorese e io copro qui la zona di Sassari, giusto per le urgenze che abbiamo lasciato indietro, perché per Sassari siamo un pochino birichini, e lo lasciamo un attimino indietro e poi vediamo di buttare fuori tutto in un giorno, anche perché la Sardegna, per quanto piccola è grande, e niente, vuole girata, i tempi di consegne lo sai benissimo anche tu come funzionano, tanto, quindi ripeto, per quanto è piccola per noi è grande e niente, quando sei fuori Sassari funziona così, e esci la mattina alle 3, rientri a casa alle 7, alle 8 e pensi di aver fatto tanto, però non hai fatto niente, ecco perché come ho detto poc'anzi Sassari lo lasciamo un attimino indietro e in una giornata e mezzo poi riusciamo a recuperarlo, mi capisci? Caffa. Ma sai che da chi li portate i vestiti a Sassari? A Sassari ne abbiamo, in Viale Porto Torres ce ne sono due, nella zona industriale ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, e poi ne abbiamo su dalle parti di Lunesole, dalle parti di via dove c'era la questura prima, adesso mi scappa il nome, e ne abbiamo dalle parti dello stadio, e ne abbiamo dalle parti di Caniga, e ce n'è, e hai voglia che ce n'è. Quindi domani ci sentiamo, perché stavo sempre sperando che ti sentissi, invece no, non ti ho sentito, invece non hai modulato. Diciamo che non ho modulato perché da quando sono rientrato a Vantieri che avevo un incasso addosso, Antu, e ti staccato tutto, ti devo dire la verità, perché lo sto tenendo pronto per sabato. Ho già tolto il coperchio dove c'era lui e abbiamo già il foro dove c'è l'antenna, è già tutto libero, in maniera che non perdiamo manco un minuto sabato mattina, siamo operativi al 100%, infatti io l'apparecchio l'ho lasciato qui a casa stamattina. Ecco perché no, non ti ho sentito. Caffa, ti prendi Mario. Aspetta che è impegnato babbo. Come è Davide? È impegnato un minuto con Pompugno. Caffa, vabbè, non c'è problema. Ciao Davide, allora. Come va? Va bene, va bene. E tu? A posto. Io tutto bene. Mi sono in compagnia di Giuseppe, sono. Giuseppe, vai avanti. Sì, buonasera anche a te e ben trovato qui in modulazione. Io sono Giuseppe Tornado, cambio. Io sono Davide. Ciao Davide, ben trovato. E niente, ho saputo che Mario è impegnato, dai, avanti tu allora, non c'è nessun problema. Giuseppe, tutto a posto, io ho parlato con Pompucco e mi ha detto che già si ricorda. E niente, che lui sta andando perché non so, dovrebbe vedere un cancello. Capito? Comunque domani sera di nuovo qua e domani sera mi sentite. Ok Mario, gentilissimo come sempre, avrò modo di debitarmi anche con te perché veramente guarda sei d'una gentilezza così, credimi. Avanti Mario. Cappa, ma una cosa quando si può fare si fa, se non si può fare ciccia. È bello così Mario, è veramente bello e niente, va bene così, dai, aggiungere altro che cosa si può dire se non è meglio di così, dai, anche valido anche per me naturalmente, per qualsiasi cosa sappiate e sappi che sono qui anch'io in modulazione sempre pronto per qualsiasi evenienza. Gappa, non ti fare problemi, vuol dire che il giorno che ci incontriamo minimo di cucina un caffè. E caffè sia Mario, e magari sarebbe anche bello se ce lo prendiamo strada facendo, e se dovesse capitare di incontrarci su strada. Chi lo sa, le vie del Signore sono finite, io credo che per metà della settimana entrante, o mercoledì o giovedì, secondo come va dovrei scendere a Villa Cisio, ma in casa già mi metto almeno il portatile. Anda bene Mario, perché se riesco a risolvere il tutto sabato, vedrai che anch'io esco bene con la barra. E poi guarda, se ci dovessimo incrociare o se sei tu dietro di me, ricordati un Mercedes bianco con centina e gru posteriore, e tutto bianco, cabina bianca, centina bianca e gru nera posteriore, e fammi uno squillo magari se mi riconosci col baracchino e niente, per me non c'è nessun problema Mario. Gappa, manco per me, io non ho problemi, io quando vado, anche se non li conosco, molte volte gli dico, non ti pusci, nei piedi. Alla grande Mario, veramente. Vediamo un po', abbiamo detto Pierpaolo, un attimino, abbiamo Antonio, abbiamo, no, mi sa che siamo rimasti in tre, siamo rimasti io, Mario e Antonio, correggimi se sbaglio Antonio. esatto. Ma ditemi una cosa, ma non, voi non sentite un qualcuno in sottofondo che si sta sgolando chiamando? Uno in sottofondo che sta chiamando? Che non sia Capri 2, vedete un pochino se riuscite a copiarlo più di me, dai, provaci tu, Pierpa. Attento Capri 2, ci ascolti la vera, che ti fa chiamata, cambia. No, non c'è Capri 2, no. Oppure, guarda, poco fa distintamente nel sottofondo ho sentito parlare qualcuno, ma chissà che non sia stato qualche interferenza, Pierpa, ma comunque, meglio così, dai, non c'è problema, speriamo che, niente, che Capri 2 si faccia sentire presto, giusto per salutarlo e passare con lui un paio di minuti in tutta tranquillità, dai, e avanti Mario. E beh, qualcuno ogni tanto si sente sotto sotto, piccolo piccolo, ma che sa da dove sta parlando? È K di positivo, Mario, allora non è stata solo mia impressione, vero? No, negativo, c'era un qualcuno, ma molto lontano, che si capiva a malapena. E K Mario, grazie per la dritta, dai, adesso non ne sono fatto una ragione anch'io, anche perché poi mi sembrava, ma ho sentito o non ho sentito, però ti giuro, poco fa, proprio distintamente, sì, non si capiva cosa stava dicendo, però era proprio una persona che stava modulando, cambio. K. No, se no, se ci fosse stato Capri 2 a me mi avrebbe sentito, poi io sono il più veloce della frequenza. E K Mario, non c'è problema, anche perché bene o male, anche se mi arriva a flebile, Capri 2 è sempre più forte di questo che ho sentito parlare io poco fa, mannaggia. E niente, mi sarebbe piaciuto salutarlo stasera, però se non è entrato sarà impegnato, dai. Niente, appagato, poi no, io sono un paio di giorni che non lo sento, mi sembra che neanche ieri l'ho sentito. Ieri c'era Pierpa Capri 2? Capri 2 l'abbiamo sentito ieri sera. Avevo sentito allora di... Allora, l'ho sentito stasera, l'ho sentito, mi sembra. A me pare che ieri sera abbiamo parlato con Capri 2, perché io alle... aspetta un attimo, Falchetto non so se sia in QRT, perché lui se lo ricorda bene. Vediamo un po' se mi sente. Falchetto, mi puoi dare conferma se Capri 2 l'abbiamo sentito ieri sera? Ieri sera sì. Ah, ecco, ciao Gianni, allora mi ricordavo bene, anche perché io poi a una certa ora proprio mi si è abbassata la frequenza di Capri 2. Sì, allora ieri sera l'abbiamo sentito Mario. Avanti Gianni, dai. Cavaga. Andate, sempre 5 siamo, sì. Sì, sempre noi siamo. E ci risentiamo con Antonio e con Pierpaolo. Da. Con Antonio e con Pierpaolo ci riproviamo, Gianni. Io avevo anche telefonato io a tempo, tu di no. Ah, cappa, non lo sapevo questo, Gianni. Bene. Ehi. Una. Se non sbaglio, ho detto qualcosa a Pompoli o Capri 2. Se non sbaglio, che mi pare che non mi pare che era con lui la moglie. Non ho capito, Pierpa. Idea, no? Io no, ho cambiato. Però io sono telefonato. anni, dai. E mannaggia, mi piace un po' però che non veniate. Proprio due, una chiacchierata, due risate, mannaggia. Non lo so. Ma cielo. Cappa, a te, Antonio, a Mario, vabbè, Mario aspetta, se non mi ricordo male, ha un anniversario, se non mi ricordo male, sabato. Sì. Mario. Ah, Cappa. Antonio, non devo andare da nessuna parte, ma non vengo. Paschi, pur qua, mannaggia. Pur qua no. No, non c'è problema, senti, devo fare due risate, cose. Poi vieni a trovarci quando vici, sei presto. Vieni a trovarci e due risate te la fai. Pierpaolo, cavolo. Tornato. Gianni, riprendi tu. No, Gianni si è allontanato di nuovo. Fa che se mi stai copiando, Gianni diceva, o alle 8:30 oppure alle 10:30. E lui ha niente, lui preferisce le 10:30, ci sono problemi. No, negativo, va bene anche per quell'ora lì, dai. Cappa, va bene anche per me, fa che. È positivo, va. Già va bene. Andà bene, andà bene, sotto a chi tocca. Domenico l'abbiamo perso definitivamente, Falchetto? Beh, Domenico, chissà dove... Adesso sarà ai pressi di Urbia. Beh, buono buono, a quest'ora dovrebbe essere... sicuramente più di Berchita, sicuramente, qualche cambio. Positivo. Positivo al 100, vabbè, noi gli abbiamo guardato un buon trapacco, un buon rientro, e va bene così, dai. Andà bene, non so se ci copi in questo momento, Domenico, vai forte, buon rientro, buon tutto e buon lavoro soprattutto, sotto a chi tocca, avanti a Pierpaolo. Ecco, bravo, che tu sei lì adesso. Sicuramente, sicuramente, e se non era molto carico, guarda, a 70, diciamo, beh, 70 no, perché con la strada che poi lascia perdere, io sono rientrato avantieri e credimi, già non ce ne vogliono fare di strada nuova, ma che almeno fa passare qualche buco, per carità, guarda, è una cosa vergognosa, e non credo sia ancora arrivato Domenico, con la strada che ci ritroviamo lì. Capo, ma se non è arrivato, ma comunque sarà all'ingresso, perché non è sospettato, vai. Cappa, Pierpa, oramai con le macchine che ci si ritrovano sotto il culo, Sassari Olbia lo fai così, lo fai giocando. Sì, lo fai giocando, ma devi sempre rispettare i limiti di velocità. Niente, no, penso è per l'orario e il tempo che è partito. Penso che dovrebbe essere nelle coordinate di coso, di Tilti, quelle zone lì, o è a Tilti o a Ennas. Sono d'accordo anch'io, Mario. Enas sicuramente, dai, e lì è già un bel rettilineo davanti ed è proprio alle porte di Olbia. Va bene, dai, riprendi tu, Falchè. Positivo al 100. Ok, io ne approfitto per salutarvi, dai, che domani trabacco è tutto qua. Salutoni a Mario, salutoni a te Giuseppe, dai, Pierpaolo, Antonio, Gianni da Perù, insomma, a tutta la coppa. URX da parte mia, tutte le migliori, ciao ciao. Falchè, se non ci sentiamo a sabato alle 10:30 lì. Dove? Al bowling? All'entrata del bowling. Positivo, ci vediamo lì allora. Ok, buon a tutti, ciao ciao. Ciao Falchè, buon tutto e buon tabacco per domani, ciao ciao. Ciao Falchè, a domani, buonanotte. Ciao Falchè, ci risentiamo, buonanotte. Ciao Falchè, buonanotte. Ciao a te, buonanotte. Papà, buonanotte a tutti di nuovo, vai. Ciao ciao, guerri che sta fatti via. Siamo rimasti in tre. La bonzi bonzi, beh. Parava, para, para. No, c'è anche Mario, c'è Pierpaolo, io, tu e Mario. Papà! Su che andiamo allora, ragazzi? Ehi, ehi, ehi, presi Mario. Grazie per i ragazzi, Giuseppe. Ma Mario, figurati, è il minimo che potessi fare, ma ci mancherebbe altro. Guarda che io sono vecchietto oramai. Ma dai, che quella è la seconda giovinezza, su che andiamo? Gappa, gappa. rida sempre quando siamo qui in ruota, Mario. Meglio che si rida sempre, il tempo passa e manco ce ne accorgiamo tra una risata e l'altra. Si passa da un discorso all'altro, guarda, il tempo ti vola. Avanti. C'hai ragione, alla grande. Purtroppo è così. Beh, certo, Mario, anzi, io direi che è meglio che sia così. Il tempo bisogna farlo passare alla grande, vuol dire che siamo tutti qua, uno vicino all'altro. Cambio. KK, ma secondo me sta correndo troppo questo tempo. È troppo veloce. È K di positivo, Mario, su quello sono perfettamente d'accordo anch'io. E su questo non ci piove assolutamente. Avanti l'amico Pierpaolo, siede nelle nostre coordinate sul 21. Cambio. No, relativo, sono sulla 131, in direzione Lecco. Ah! Contagiosa la malattia, va bene che siamo a fine settimana, mie, siamo tutti quanti troncati, mamma mia cara, come ho detto ieri, l'acqua che ho preso ad Arzachena ieri me la ricorderò sin quando nostro signore mi farà arrivare alla pensione, credetemi. Comunque Giuseppe, martedì sono io a Cagliari. Ma a Cagliari per quella storia là? No, negativo, tutto con un'altra cosa. Ah, ho capito. Hai tempo per fare qualche girella? Non ho idea se ce la faccio a fare qualcosa. Bene, comunque nel caso ricordati via Elmas, che è proprio all'ingresso, oppure all'uscita quando stai andando via, e c'è poco da sbagliare e lì trovi tutto quello che una persona può desiderare. Cambio. Mancherebbe altro, però è un bel magazzino, mi hanno detto, Pierpa. E io ti dico la verità, io non l'ho visto, ma giusto per togliermi una curiosità, eppure il muso prima o poi ce lo devo sbattere, perché ne hanno parlato veramente bene tutti. Beh, era fermo la cazzo da Nemodoveni. Che dimmi già? Forza, era fermo la cazzo da Nemodoveni, aperto. È negativo, di domenica è chiuso. Bene, se scendiamo in barra pesante lo possiamo aprire in un attimo, se c'è qualche serranda facciamo un self service. E chi? Che decisioni vai a fare barra pesante? Quello ti preoccupare, no, niente, perché se l'apro appena appena dietro basta fare una piccola retromarcia per finta di non aver visto la vetrina e in un attimo siamo dentro. Cavagava, in un attimo arriva la polizia perché scatta l'allarme e c'è le manette. Aspetta, Giuseppe. Dimmi, Pierpa. Ah, stavo parlando dei negozi di Maracchini, Antele, tu. È positivo, Pierpaolo. Io avevo una mezza idea di quello che hai capito tu, ma non era inteso quello. Ah, perché io credo che stavo dicendo gli altri negozi di carne, no, non avevo capito, scusa. No, di niente, Pierpaolo, quello è proprio viale Monastir, dove ci sono le macellerie aperte. Cambio. Capo, già lo so, da una parte ci sono le negre, dall'altra le bianche. Positivo, Pierpaolo, positivo. Giramondo che non sei altro, hai capito? Dove ci sono? Dove sono? C'è tutto qualcosa, nel parcheggio, il tigre, lì ci sono quelle dell'estero. Esatto, senza bisogno di andare su Google, Pierpaolo, hai visto che siamo aggiornati al 100%? Sì, ma occhio che se mai hai ritrovato la sorpresa, è altro che il Google. Dall'altro Chirrio. Questo è tutta un'altra parte. Tanto prendere il culo su io. Fate discoteca. Stava a parlare, due stava raccontando di quello del bugiardo, eh. E diceva più a parlare questa tipa, cazzo c'era la notte nel mondo. Parlando, parlando, sai, no, per qua. E ci c'è l'uno, e ci c'è la retta. Così mi ha raccontato, ecco. Mi ha messo le mani nel sacco di un bianco e ci ha trovato il flauto. Il malattio del dubbio ha trovato. Eh sì, ma attenzione che il sacottino del mulino bianco, se ascoltate bene la pubblicità, fa anche i flauti il mulino bianco, eh? E vabbè, comunque. Ma rimasti male, lì c'è una bandona, ma lì è una bella, è bionda, vabbè, non so ancora chi sia, non conta niente, comunque, guarda me non vuole seno, la mamma ha un coso, un flauto di mulino bianco. Ciao a tutti, ce la risentiamo alle prossime, buonanotte, buon tutto e ci si risente. Ciao Luca, ciao Giuseppe, Luigi, Pierù, Antonio e a tutti quanti gli ascoltoni. Ciao ciao. Ciao Mario, buonanotte. Ciao Mario, sei qui e cordialità, buonanotte e a risentirti presto, ciao ciao. Ciao Mario, buonanotte. Ciao Mario, buonanotte. Aspetti, non usare il cottino nel mulino bianco, vero? Comunque, quando le vedi così, sono una cosa, capi, che veramente ti lascia una bocca aperta, perché proprio se poi appena sei così in discoteca e cosa, ma sbigaggi e manco te ne accorgi. Già lo so, già. Bisogna stare attenti, bisogna fare, chissà niente. Ti possono fregare. Oh, ma voi... Se lo conosci chi si ribelle è meglio, se te ne accorgi subito. Ci mancherebbe altro che uno non se ne accorgesse subito. Cazzo, non fuggi in fretta da inchivino. Pusso Dio. Oh Giuseppe! Comandi Pierpaolo. Una volta con la lettera com'è, no? Sono passati lì dove parcheggiano quei tir. C'erano tutti i tiri in fila, a destra, a sinistra, a rimorchi, e quando c'erano. C'è invece un bel vento lì da quella parte. Sapete perché? Che se fa vedere, quei cani si stanno muovendo, le cabine. Davvero, non ti preoccupare, quelli sono movimenti strani, non c'è qualche cosa, qualche demone che si sta spostando. Mannaggia. Gianni, mi prendi, andiamo a cagliare, io. È stato chiuso, cosa ci andiamo a fare? Chiuso la domenica. Cosa si va a fare quando si arranca? Io volevo andare a vedere questo negozio, però stanno tanto parlando, a vedere com'era. Sì, ma quando sono in ferie ce lo faccio lo scappo. Ci mettiamo d'accordo, se siete liberi. Aiuto, andiamo qui martedì con me, aiuto. E come faccio a vedere martedì? Se fosse stato lunedì già sarebbe venuto di sera. Non posso lunedì, devo andare martedì mattina, dai. Martedì mattina vengo con tutto il bel di Dio, aiuto. Ci posso venire per male, io devo lavorare, lavorare. Sono libero lunedì sera e la domenica. Aiuto, ditemi cosa volete, lo compro io, aiuto. Non è vedere. È vero, io sono il tuo. Adesso l'ho venito 8 giga. Ma ti vedi? fare un salto, guarda, che poi siamo noi, mi, attenzione, un pochino così, perché tu figurati, ed è rivolto sia a Pierpaolo che a Gianni, questa piccola parentesi, ma essendo in ferie, più che andare a Cagliari, io, visto che siamo un tiro di schioppo qui da Porto Torres, vai Porto Torres Genova, ma sai cosa tutto trovi, tutto il ben di Dio che trovi lì da quelle parti, e se devi scemo voi sicuro. Dove vi apri? Alla grande, e che vi pigliamo solo così? Bisogna vedere. Lì ci vogliono anche le mutande di lamiera, ne? Il desiderio è di andare a Cagliari. Non sarà oggi, non sarà domani, ma qualche giorno ci riusciamo. Positivo, Cagliari già si fa in fretta ad arrivare, poi in vettura è una passeggiata oramai, e attraversi 200 svincoli che stanno facendo sulla 131, 240 cantieri, 6.780 buche in un chilometro e mezzo, e fate il conto per 220 chilometri, arrivi che se a stomaco vuoto, il caso non ti viene gara di magna, se hai magnato arrivi a casa, caso che sei a puttaretta, quindi figurati. Ma già ci riusciamo, dai, qualche giorno bisogna organizzare e farà. Io sono perfettamente d'accordo, io ripeto, basta che lo sappia almeno un paio di giorni prima, mi prendo una giornata di ferie, non apparendo in faccia a nessuno e via, su che si va. No, io un giorno volevo fare un viaggio con te in barra, però. E andiamo alla grande, non c'è nessun problema. Sì, anche se non vogliono, perché ci sono problemi quando siamo da Sassari. Ma vuole fare siccome ci piace un poco con la barra, vuole provare a fare un viaggio in barra. Ma diciamo che già si viaggia bene con queste Pierpa, già è un'altra storia da quelle che abbiamo usato noi. Ma ti dico la verità, io molte volte quando lascio la barra e mi siedo in vettura, io con la mia mi trovo male, anche i posti li sento, con chi sai già come papà è nuova, per l'amor di Dio, però niente, oramai li stanno facendo talmente sofisticati che gira gira si sta meglio sulla barra che sulla vettura. Domani anch'io quando passo 10-12 ore sul treasci mio e poi mi siedo nella macchina. Conoscere la macchina sembra che mi sto sedendo in un salotto, anche se non appunto, come se mi sedevo in un salotto, non quello del salotto pare che sia posato in altro cantone. Cappa per farci credo, mannaggia, certo le avevano potute fare sapendo l'uso che se ne fa di quei treattini, fare un attimino più comode, almeno un che ne so, un po' di riscaldamento, magari un pochino di insonorizzazione più adeguata, diciamo, perché una persona ci passa la giornata lì dentro, mi diciamocelo chiaro e tondo per fa. Ma quello infatti non è che sono molto per viaggiare tutto il giorno così, quelli sono per portare più che altro il pacco del fioraio, però vabbè, bisogna farlo, se fa lo stesso, la mia schiena ormai è pizza, non arriverò a 60 anni, Gianni. Eia. Addormentarti stai? No, ti sto ascoltando. Ascolta con il microfono, vuoi chiederti un parere sul microfono? Se lo attacco, me lo dai un orecchio a vedere? E perché no? Scatta, aspetta, mi prendete nel frattempo, lo attacco, Ma devo fare confronti con questo? No, confronti no. Soltanto se lo memorizzavo questo. Vabbè, dai, provalo. No, lo confronti, no, mi trovo a sapere che cosa senti con quel microfono e come senti la modulazione. Dai, riprendi, d'accordo. Ciao, riprendi Giuseppe. Rieccomi qua Gianni, niente, se riusciamo anche che ne so, senza bisogno di aspettare le ferie, riagganciandomi al discorso di poco fa, ci si organizza o già, magari o se ti ritrovi che ne so un lunedì libero o quando è, basta saperlo un paio di giorni prima. Sediamo in macchina e stiamo scendendo senza nessun problema. Vabbè. Adesso a chiedere i permessi non fa, sono appena rientrato, non me la sento. Oh, assolutamente Gianni, lì sarebbe, per carità, quello non l'avrei fatto manco io. Ma non ti dico di scendere oggi, ma magari, tanto guarda, il tempo... se ci stiamo accorgendo, sta volando. Sino all'altro giorno eravamo seduti tutti quanti intorno alla tavola mangiandoci la fetta di panettone e siamo già a fine gennaio, cioè lo tempo è passendi. Ci troviamo adesso a coso con un paio di calzoncini a maniche corte che manco ce l'aspettiamo e poi ci becchiamo le ferie e lì ci possiamo muovere come vogliamo, mio già, senza stare lì poi a girarci tanto in tondo a questa storia qui. E io giugno o luglio ci riuscirò. Allora va bene, senza nessun problema. Io ad esempio ad agosto sono libero, senza nessun problema. E se devo prendere una giornata di ferie, e come ho detto poc'anzi, passati avvisi un paio di giorni prima e problema non ne ho. Quando vogliamo organizzare senza incasinarci col lavoro, perché quello prima di tutto è, per l'amor di Dio, poi per i baracchini, per i cose, per le cene, per tutte le altre stupidate ce n'è di tempo. Prima sempre il lavoro, caso ci mancherebbe altro. Chiaro grido, se manca lì ci sono le cene, le baracchini, le niente. E scappa Gianni, perfettamente d'accordo con te, ci mancherebbe altro. Tu ci sei sempre? Eia, avanti! Gianni! Eia, parla! Guarda un po' come senti queste modulazioni, come è? Buona, è buona, è buona! È buona? Niente di cosa, di rauca e bulle? No, non è per niente. Ah, qualcosa di metallico, ma leggermente all'inizio, ma no, qui come moduli e fallecco non si sente più. Scappa, guarda un po' adesso come si è migliorato, come è? Sì, adesso va meglio. Scappa, mi interessava sapere, soprattutto se cracchiamo, se c'era qualche altra cosa che non andava. Io qua la sento bene, ma dall'altra parte bisogna vedere come è. No, per me va bene, niente da dire. Scappa, va bene, va. Poi lo proveremo nell'altro che arriva questo microfono, speriamo che ci siamo riusciti. Qui forte chiaro è veramente bella come radio. Va bene, lo metteremo a parte quando arriva, vediamo come va, cambia. Vaga, questo che microfono è? Cos'è già? Questo che microfono è per qua, ci tiene? Ci tiene con una capsula. Vagava. Andava. Capo sulla telefonica, no? No, non è telefonica, no. Dentro c'è una capsule. Danne più tre. Comunque. Avanti. Chi è rimasto? Siamo io, tu e Rose. Avanti c'è quanto è qualcuno nel titolo. Rose, è io, tu e le rose. Che fece? commedia, lo so. Vai una canzone, io tu alle rose. Ah, no, ho capito male, ragazzi. Tu, cosa c'è un padre spacciatore? Gianni. Eia. Comunque è successo a me, noi l'abbiamo fatto. La trovate è successo a me stasera, però, insomma, non proprio quell'indumento, Che cosa? Io ti copio bene e tu già. Sì, Sì, ma preferisco sempre il 550, quello che preferisci lui. Sì. La radio è più potente, più forte, con l'eco. Io sono appassionato di eco, quindi a me piace, non ho usato molto alto, appena appena come ce l'ho io adesso, però mi piace. 550 è la mia preferita, da quando ce l'ho avuta mi è piaciuta molto, non c'è niente da fare. Questo è digitale, va bene, però quello là e quello là non c'è nulla da fare, mi piace di più. Poi ogni tanto attacco il buzz, arrivo a andare tutti gli apparecchi. Lei l'ho attaccato ieri sera, l'ho attaccato. Invece solo la domenica li faccio girare. No, io tutti i giorni, mi vedo una a caso. Ma tu perché non ce li hai fissi, ce li hai conservati, li prendi quello che vuoi? A me mi viene male, ogni volta staccare. Ehi, vabbè, non ci vuole niente, ci vuole 5 minuti a farlo. E tu magari hai la più preferenza per quello lì, basta. Però io preferenze ne ho una solo, te l'ho detto, perché mi sono accorto che va molto bene. E quindi uso più quello lì. Ma a me piacevano tutti e tre, naturalmente questo mi piace di più, di quello della verità. È un apparecchio che mi è sempre piaciuto sin da quando ero ragazzo. Immagina tu se non mi piace. Ciao, la preferenza ce l'ho pure io, ce l'ho. Insomma, li tratto un po' con tutti, non è che... Sempre imparare a usarli tutti. E bisogna farli scaldare un po', ma basta una volta alla settimana. Anzi, c'è anche per i pulci, c'è gente che lascia anni e poi li riaccende e sono tranquilli. E dipende dalla fuga della mano. Già lo so. C'era un periodo che ogni tanto ci sentiva una modulazione diversa. E che se ne attaccava uno, attaccava subito l'altro. Non lo ricordi già? Io per dire c'ho quel portatile che è fermo da anni, non l'ho tratto mai. C'ero lì lampando, quello lì va bene per cosa si fa le manifestazioni, il coso. Se andiamo a Cagliari più macchine è già bello, perché ci facciamo il discorso, si va a Cagliari tranquillamente. Ma si va con una macchina solo? Dipende di quanto dobbiamo scemo. Ah, cappa, ed è bello sì. E comunque, e ogni tanto già l'attacchi pure quello lì. Quello lì è un po' dimenticato anche. È un po' dimenticato, è sempre in alto al mobile. E l'attacco ogni tanto ogni volta non impappa. E ogni tanto basta solo accenderlo, dai, anche lì magari messo sul mobile accenderlo un pochino, capito? Infatti poi quello lì c'è l'antenna con la calavita, allora ce lo metti sulla macchina e batti un bel vicino a posizione, mi accompagnava. No, è già lo so, l'hai provato un giorno e va bene. Ma voglia, anche la radio è bella, bella, bella. Magari l'attualità lì non serve più. No, che va bene. Ma nel senso che se tu li da capo sulla radio, non mi sto spiegando io, se tu li da capo sulla con la radio lì, la metti in un altro microfono, se vi dice. Beh, è così che funziona. Molte volte noi TikTok, molte volte esce anche meglio, no, sono un po' particolari queste cose. Se te ne sei accorto pure tu cosa è successo l'altra volta. Che tu hai pigliato la capsula del CTL, l'hai messa nel microfono in Galaxy, una bomba, l'hai messa nel microfono di quello della macchina ed ha cambiato tutto. Io me lo sospettavo che era così, perché CTL si sa che esce bene. sono così queste cose, sono un po' particolari, un po' strane. Molte volte può uscire, guarda che è pessima, molte volte può uscire benissimo. Ma io dico una cosa, che tante volte un ripetuto dalla capo si è accorto il corpo del microfono. Dove era chiusa la capsula, perché siamo fatti in maniera tale che li fanno uscire bene certi microfoni, cercate di sono fatti più con l'economia e escono un po' così, capsica, perché tante volte le capsule escono male da una parte e poi dall'altra escono bene, come si spiega? Sono cose un po' strane, molte volte è anche l'apparecchio che fa la differenza. Magari tu rubi un apparecchio e ti rende così, lo metti nell'altro rende tantissimo. Sono discorsi un po' particolari, sono fatti così, sono. Diciamo che devi avere un po' di fortuna tutto lì. Se è una fortuna arriva bene, se è una fortuna ne deve provare mille, magari in quelle mille non è una che arriva da bene. Sono fatti così già, sono fatti così purtroppo. E vabbè, meno male ce l'ho azzeccata adesso la capsula. Cappa, ne ho trovato una che va benissimo su quell'apparecchio lì e una che va bene su l'altro apparecchio. E ho azzeccato tutte e due, dai. E perché vabbè. Vedi di che cosa si parla, dai. Lo so Gianni, ed è anche bello ascoltare, perché anche ascoltando si imparano tante cose nuove. E non è detto tante volte che un microfono magari, se funziona bene la capsa di un microfono in un apparecchio, non è detto che nell'altro vada bene. O viceversa, se mi cambi il tipo di microfono che vada bene, la capsa che va bene nell'altro baracchino che vada bene, anche cambiandola. È tutto un inghippo, devi avere anche un po' di fortuna. Beh certo, sembra quasi come un intrigo misterioso queste storie qui, però giustamente anche questi sono apparati e da uno all'altro è giusto anche che ci sia la differenza. K, c'è quello che spinge di più, quello che spinge di meno, quello si rimette un microfono che non ti rende, l'altro che ti rende che è una bomba. Dipende tutto dalla potenza, dal microfono, dalla cassa del microfono, come è fatta, capito? E certo, e tu figurati quel giocattolino che ho io, che a vederlo, guarda, molte volte mi scappa da ridere da solo, eppure in una maniera o nell'altra cerco di uscire con quel giocattolino lì. Ma tu esci già bene, ma adesso cosa si doveva fare in quello lì? Non ti ho capito Gianni, in che senso? Doveva fare qualche modifica in quello lì. Nel 48? È positivo Gianni, e deve portare su i VAT. Poi che canali? Sì, il ponte, quel benedetto ponte che ci vuole con la parata. Però mi ha detto che lo può fare direttamente giù in stabilimento. Mamma mia che... Infatti io gliel'avrei voluto lasciare, cioè fatto a casa è molto più tranquillo, anche perché sono dei lavori un po' particolari a quanto so io, cioè è meglio che li fai tranquillo senza metterti nessun problema, mi capisci? Di cono, di farlo in fretta, di anche un posto anche più pulito, perché per quanto può essere giù anche in stabilimento polvere lì ne circola. E sederti sul tavolino, aprirlo tranquillamente, con uno strumento davanti, con un watt per controllare il watt, alzandoli, cinquandoli, alzarli, e poi non darvi mai il massimo, perché sfrutti i finali completamente. E questo potrebbe far surriscaldare i finali. Allora, cosa conviene? Conviene massimo sollevarlo 9 watt. E certo, e anch'io stavo pensando, e addirittura stavo pensando a 10, perché credevo che 10 watt poteva essere il minimo, perché mi sento chi ne ha 15, chi ne ha 25, chi ne ha, che ne so io, però parto sempre in tranquillità, mi capisci? Ed è per quello che io avrei voluto, se gliel'avrei potuto consegnare domani l'apparato, tanto c'ero qui a casa, non lo sto mettendo in camion, perché ho già aperto tutto il vano, pronto per essere operativo sabato quando si scende, no? E aveva avuto col tempo anche di, che ne so, sabato mattina lui sarebbe potuto scendere anche a metà mattinata, una volta che aveva fatto il lavoro, mi capisci? Ah, quindi sabato lo fate, l'ho preso. Eh sì, tanto ormai ho preso la parola anche con Natalino, che venerdì sera deve scendere da Palchetto per ritirare l'antenna. Già. Mi è copiato Gianni? Gappa. E quindi niente, bisogna, se poi non si termina sabato mattina, e che si vuol fare? Ci faremo un salto anche sabato dopo pranzo, perché niente, lo devo sistemare questa storia qui in maniera come il lavoro che ho fatto sul tetto, no? Lo fai e poi non ci devi pensare, perché guarda, ho già mal di testa solo al pensiero che devo andare di nuovo giù in stabilimento sabato. Allora, e ci credo. Avanti, chi c'è che vuole entrare, dai. Io, ecco io, vai. Sono i CDC. Io vi saluto con la buonanotte e ce la riascoltiamo le prossime. Se coincide, dai. Vi auguro un buon lavoro per domani, una buonanotte. Ciao, ciao a tutti, anche agli avventori ascoltoni. Cappa, Roger. Ciao Pierpa, ci risentiamo presto, buonanotte e buon lavoro anche a te per domani, ciao ciao. Ciao Pierpa, buonanotte. Ma se mi fa che tu mi sei tornato? Di nozzo, Avanti. Ho detto, ci sto un altro pochino e pure io fra un pochino chiudo. Eh sì Anto, anch'io, guarda, ti posso dire, è 12 e mezza, chiudiamo le trasmissioni, dai. Caffa, ieri sera te l'ha fatta un po' tardi, ma ti sei alzato tardi stamattina? Alle 6 Anto. Ah, adesso un pochettino di più, dai, subito sembra alle 3. Le 3, le 4, già non è, diciamo che non mi annoio io, sotto le coperte, quello è poco ma sicuro, mannaggia. Gianni, avanti. Cosa fai sotto le coperte? Niente, si dorme, che cosa vuoi fare? Quando è l'ora di fare la nanna, sai che fanno i bravi bambini? Cosa fanno i bravi bambini? Pigiano i ripieni. Tutti a noi, yuhu! Ma si paga un bel nome? Presumo di sì. Noi abbiamo avuto il giro di essere tre volte invitati lì, però so che sono sberle. Ah, magari. Poi vabbè, tanto non è una cosa che mi attira, proprio per curiosità si è venuto a andare una volta a vedere com'è. Ma più che altro è giusto per curiosità, come tutte le cose, non è che uno ci va per cosa, a meno che proprio uno non abbia cose da buttare, mi hai capito? No. Fa. Non è per lui. Mi hanno detto che hanno fatto a un amico mio uno scherzo. E siccome è molto vergognosa questa amica, molto riservata e cosa, mi hanno portato al caos andando ad Alghero, lì. Questa amica dice che c'erano le tipe che ballavano sul cubo eccetera eccetera, poi questa qua era in perizoma, no? E in perizoma era seduto e dice che si è messo sopra questo mio amico, gli si è seduto sopra e si spotteva e qua di Luciano, Luciano, che prendeva tutto il ruio. Poveraccio, cazzo, me lo posso immaginare. Aumentata la modulazione. Ma è sempre uguale. È uguale. Ancora lì c'è una grande campanella, ammetta. Dice che questa qua chi ha pettona, una bella, bella donna, una russa mi pare che fosse. Cazzo, alla grande, cazzo è diventato un bruco, faccio il ruio, quel ragazzo un po' timido. Ah, vedi che si locale bucaccione, già. Magari poi quando prende confidenza, no, ma lì si timido. Avvicinate il microfono. Magari. Ho detto che all'inizio è timido, ma magari poi come pila confidenza va alla grande. Ma non va bene così, che si lascia così a un palmo di naso, no? E questo invece è come ti posso spiegare? Dare una pacca, dai, questa data. Magari si appaccia. E come ti la vuoi dire, io non è che io l'ho detto in modo pulito, dai. Forse mi ha capito, Giuseppe. Ma sai che non le puoi toccare le donne, che ci sono i buttafuori, se le tocca per appena di pigliare il parolgolario del ciclo di fuori. È per quello che non mi piace andarci. Ti fanno morire, poi non le puoi toccare. Ti fanno di tutto, si allargano gli stipini per mettere i soldi dentro. Da carina, è tutta una macchina che posa in capo. Ho fatto questo amico che quando entri ti danno dei gettoni finti e cose, poi questi soldi qua praticamente li devi dare, i soldi non devi pagarli, quelli che mancano li devi pagare. Detto babbo, come sei esperto di quelle cose. Dicevo che me l'ha raccontato un amico che è andato, te lo sto dicendo, quello che hanno portato là. Che ha fatto? Non mi piace, no, questi locali così. A voi non li puoi nemmeno toccare un culo, dai, ma te lo dico, la facca vuol dire quella. Facca di sentirsi da sulle spalle, quella è una palpata. Va bene, io vorrei di modo pulito. Parlacene tu, Giuseppe. Ma sai che cosa sto facendo? Mi sto sfogliando l'ultimo numero del computer. Ah, è una cosa bella, dice. Mi sta vedendo dove sei, su Badus? No, sono qui, sulla scrivania. E sto leggendo qui che c'è il nuovo programma di Emul, come usare Emul, il programma perfetto per caricare quello che vuoi senza nessuna difficoltà. Bene, questo è mio, anche perché insieme a questa rivista qui mi sono preso il dischetto, no? Con i programmi. No, io non ci vado, su Emul non ci vado. Mm. se vuoi vedere dei microfoni, delle belle cose, se dove puoi andare, si chiama Tubeo. Come già? Tubeo. Proprio come si pronuncia? Tubeo. Tipo sempre nata. Esatto. Cava. Tubeo, poi se me lo scrivo. Ah, già che sei sul computer, va a vedere, c'è un bel microfono di quelli da tavola. No, non ci sono sul computer, già, sono su rivista, la rivista che sto scogliando a mano. Bagava. L'ho tirata prima di entrare qui in modulazione e da pellicola, perché è una rivista che mi prendo ogni mese, ma ne ho un casino di queste. Però è molto bella perché ci sono tanti così utili. Campagata. Per pane, non puoi fare, ci sono i bussafuri. Quando sono di tre non li butti in un ragusino. E seconda cacciaffa le buruette o gioia. E butta fuori sono anche sono dei chissi delinquenti molte volte. Io mi ricordo che qualcuno ha sparato anche. Già fa uno che fa di lotta libera e cassa selvaria. Si brinca in andare da urini e tutto canto di cui la pare di bella faccia non sa nemmeno da onde era arrivato. Secondo chi trovano c'è più degli altri grandi, altro che. Sì, vabbè, c'è sempre quello più forte, no? Ti ricordi dove c'era il blu sac? Era una persona, cioè, mi hanno raccontato che questo quando da figliato di Nibesa, me l'ha raccontato Papo proprio. Quindi invece che sono vestito, comincia già a tagliare a fare di me da faccia tutti i grandi. Isso, Maria Giuseppe. A Giomà non li ha ammazzato tutti quanti, è riuscito pure a fuggire. Io ho visto una dicendo una volta, te l'ho raccontato, non riuscite a stradare Giuseppe. Via Mano, via Carlo Alberto. Con l'incrocio che c'è. Praticamente questo grosso è alto, non aveva rispettato lo stop, e stava aperto anche la parte grande. Siccome ha visto quello là che era piccoletto, magrolino, e se pare a racchia, nella profilatera, attenta, ammazzo, ti faccio una faccia. Questo qua, piccoletto, c'ha le macchine attaccate ancora come avevano avuto un incidente, ha brincato le macchine, gli ha avuto la guarda di media faccia, e è riuscito a calcare. Fatto, e ha fatto bene, la faccia, cazzo, del piccoletto, mi frega. Scusate dalle cose, se non le sacrare un'altra ammazza, poi, a fare di media faccia, pugni, che cazzo di triguale da fare? Una velocità, questo qua. Parliamo, sai. Ci credo, sono proprio quelli che bisogna stare molto attenti. Se c'è sceso come una pera questo qua, è alto e grosso, mi sta facendo 1,85, così grosso, un bel spiazzato. Aveva troppo, si è preso anche la ragione, te li immagini? Giustamente, vedendo la faccia del rivale, no? Dice questo piccolino, adesso faccio valere le mie ragioni, però vedevo che la persona non si misura a palmi. Infatti così. Sai, non sai mai chi trovi, non sai mai. Ha ci appiegito che è più curioso di te e ne codice a fare. Non è Cristo, ha già finito veloce, spinta da ogni parte, no, non ci riesce più a fermarlo. E oggi finisce il capisce guidato che vanno corsi dentro i pugni, senza problemi, come ci sono, come fanno nei paesi, alle feste dei paesi non devo andare per quello, perché si ubriacano e abbiamo i pugni. Quello succede il 99,9% delle possibilità che hanno di uscire indenni. Tu ne prendi 100, 99 sono tutti punti e uno riesce. sia rientrati a casa tranquillo. Ecco perché io odio anch'io queste feste, i festicioli, così che fanno in certi paesi. E così è stato Olbio, quando c'era il concerto della Pausini, si sono accoltellati due. E cappa, e non per niente i due erano di e altri due erano delle ancorate più dell'interno, figura questa. No, lo usano mai queste cose, io dico la verità, a me i coltelli piacciono, però come figura così è brutto. Ma io qui Gianni ne ho a casa di tutti i tipi e di tutte le razze, c'ho questo che ho qui a fianco a me che si può dire che è una sciabola dentro la custodia. Però li tieni dentro la custodia giusto per bellezza. Ho anche una bellissima palestra ed è uno spettacolo solo vederla. Ma non per questo che se devo andare, che ne so, a una cena, a una sagra, un coso, devo uscire per forza col coltello in tasca, stai già partendo con brutte intenzioni allora. Infatti io mi coltello ce l'ho, ma lo uso per lavoro, per tagliare il nylon delle pedane, per smantellare le cose. Lo uso il coltello. Quindi lo uso solo per queste cose qua, oppure quando vado in sede che faccio, mangiamo la pizza, facciamo il notturno e cose, adesso non può che non ne faccio, ma prima quando facevamo il notturno ci ordinavamo la pizza e io usavo il coltellino per mangiarla, ecco, tutte queste cose qua. L'utilità del coltello deve essere diversa da quella che si utilizza nei paesi. Sì, quello è poco ma sicuro, però loro la mentalità nostra non ce l'hanno, quella è giusto ed esclusivamente un'arma per offendere, ma manco per difendersi. Sì. Solo che a volte offendono male, che a mettere il bassone. Ma bisogna vedere anche perché se facciati e agigetta dietro le spalle, quella arriva prima del coltello. Vabbè, già lo so. Infatti non bisogna mai bisticciare, così non si sa mai che faccia per davanti, ma è trovi uno che alle mani non riesce a usare, prende la pistola e ti spari. Come già successo per una coglionata in macchina, quindi figurati. Se ci si può azzardare adesso a dire più, oh, guarda che lì hai saltato lo stop, ma conviene, cazzo, di terapai di mamma pancuro, quindi ripetere in andare. Cioè, così a volte è nervoso, ragazzi, perché trovi quelli magari hanno torto marcia, si mettono anche a voce, a dirti parolacce, cose, quello della pastara. Ah, io andate a pugliette così, manco qua, cioè sempre fatto di c'è cose pesante, ti passo direttamente. Se trovi tutto io buono di buono. Sì. Intanto se uno è uomo devi fare così. Se uno è uomo. E se no ti mette la coda fra le gambe. Siccome uno si deve fare anche rispettare. Non devi dare manco un tempo, se ti dice qualcosa di molto offensivo, lasci perdere fino a questo punto. Ma se ti dice cosa molto pesante, le pigli di parte, a fare di bene, a sciombate e a tutti i ruti. Tu quelle cose le facevo da ragazzino, adesso non le faccio più. Tu non hai da cattivo, ci bisogna farlo da ragazzino. Guarda che a Sacro Cuore ogni volta succedevano casini perché c'era Grefo e via Valdetta, che praticamente ce l'aveva contro di noi perché delle persone di via Valdetta erano venute giù a Sacro Cuore, frequentavano delle ragazze. Ed erano dei gelosi, faravano a farasi cose, una volta è successo un casino. Tanto tempo fa e non adesso. Praticamente sono scesi quelli di via Valdetta per picchiarci. E noi abbiamo tirato pugni di ferro, catene, è successo un casino, tutte le vie, sono state bloccate dalla polizia, siamo saltati sui tetti e avevamo preso lì una persona che conosce anche Giuseppe. Cosa ti fa? Ti fai picchiare questa gente? Per rispettare, pure a me che è successo una voce che che c'ho un mal di dos, e sa ancora mi pare, figliolo di qua, che io no, non ho potuto sopportare, è più bello di buttare la cadere a fianchi, manco fatti. Io per quello, se Giuseppe conosce veramente Alejandro, quello sempre quello se lo fa dire, dal pugno che gli ho dato all'occhio, gli sono mancati 3 gradi di vesti. Ci posso credere, ci mancherebbe altro. E lì ci sono delle situazioni in cui per forza ti devi far valere, non ci piove. Però allo stesso momento ci sono delle situazioni che se riesci a, non dico a sorvolare perché è una parola brutta, però se riesci a girarlo un attimino l'ostacolo è anche meglio, perché poi entri in un giro vizioso. Guarda, io l'ho già provato, che cosa vuol dire, e poi è brutto perché poi sembra quasi che se non arrivi alle mani stai là. Quello chiama gli amici chiamano gli amici, un casino, sì. Cioè provate queste cose, per quello che vivi, tanto per esperienza, non perché mentre la coda fra le gambe, anche se mi pongo a difendere mi cerco di finire. Però io cerco sempre di evitare, perché non sono una persona violenta, e la violenza non mi piace, lo dico chiaro e tondo. Ma neanche io sono violento. Io vivo e lascio vivere. Però non mi devi scocciare, così la penso io. Cioè sono disponibile, tutto quello che vuoi. Però il rispetto ci vuole. Ma anche io dico questo, che il rispetto ci vuole, chi l'ha detto che non ci vuole? Io lo do e lo voglio il rispetto. Però io non so garabino come molta gente, non ascoltare parole e piglierti fuori, no, non va bene. Bisogna saper ragionare, uno che usa le mani perché non sa ragionare. Cappano. Io sai quanto ne ho lasciato perdere, guarda. Vedi, ciao, no. E non darli manco retta a certa gente. Ma alla fine, cioè, mi potrebbe di lasciarli cagare, però l'importante è non esagerare, sai, perché se esageri molto, allora pure io mi giro, dopo è il discorso. Penso che ci sia nessuno che porga l'altra guancia, ci rifugi in un cagnotto e si difende, però se arrivate a quel punto di sintomi non metti le mani addosso, non sono mai il primo a mettere le mani addosso, quello che non mi va. Se rimandi non ammarati, ma se lo faccio per difesa, non per l'attacco. Ah, pure io lo faccio per difesa, sì, è normale già, è tragedito questo stesso. E poi ne è successo pure un altro episodio che qua non voglio stare a raccontare, che voleva tanto un voce, voleva vaghi, ha detto, cosa vuoi, io non ti ho fatto niente, mandandocelo via, mi ha misurato i buchi, i ricordi, ti ripasso, a ciombate, a pugni a faccia, madonna. Qualcosa che ha messo, che poi mi è successo una storia analoga. Stavo tornando, lo stacco morto a Terlalba, ho parcheggiato il furgone, sono avvicinato di questi tre, che poi ho saputo che rompevano le palle tutta la sera, erano in secca, c'era il weekend. E sono avvicinati a me, mi fa, quel furgone non lo può mettere, squadra narcotici. Mi ha detto, ascolta, lasciami perdere che sono stanco. E vai, non vedo un fisico. E io mentre andavo a casa per girare l'angolo, sai dove è? Ti ho detto che abito Giuseppe. Dove c'è la scuola numero 16 nell'angolo, abitavo. Come sta facendo l'angolo, questi qui sempre appeso, alla fine ho detto, beh, se non mi giri io no, mi cogli. E allora è meglio che mi giri. Mi sta facendo, non c'è il fisico, questo e quell'altro, vai, che tu come un cagnotto, non so come metti, il cazzo mi viene una cosa di, una specie di pallina a capo, non capivo più niente. Ti ricordo di San Giusto, a uno gli ho incontrato la fede e mi ha alzato 3 metri da terra. all'altro ha tirato un cagnotto che è caduto in terra, comincia a prendere la famiglia, gli stava mettendo l'altro per difenderlo, e allora gli ho preso la vada di media facendo il gesso che c'aveva, non me l'ha accorto manco che era un gesso al braccio. E figurati, capi perché, ma quello è normale, capi, quando sono in branco tutti i campi sono fuori. Fatto sta, c'è la gente dentro di giudice, fatto sta, non ho chiamato anche la polizia, anzi mi hanno detto, c'è lo scendi di giudice, ci incendiamo il camion, un centinaio, perché non chiamano tanta gente, dal voce fino a corso, niente, peccato che non c'è gente che io conoscevo, ce n'erano un paio che avevano visto la storia, però sapevano tutto, sapevano che questi stavano rompendo anche le scarpe. Se non viene la polizia e se stava salendo la casa di mamma, che sono sceso con le scale, la polizia e mamma, vieni qua perché ti picchiano e sono in tanti. No, non mi picchiano, ti preoccupare, sta salendo la polizia a caso non ti deve entrare, che io sono un delinquente. Beh, erano due amici miei poliziotti, dice già, cosa è successo? Così e così, sono scambiati, ma scuola l'altro, vicino non ti conosce. Siamo scesi giù, ecco lui, ci ha picchiato, questo, quell'altro, e voi che cosa avete detto? Eravate la scuola narcotica, ti dico dei due giaffi poliziotti, voi, stabilite le caricate in macchina, a me ne hanno preso nome e cognome, per prassi, non me ne fatto male. Ma quello è normale, capo, ma per la vai a rompere le palle, capo, uno che è tranquillo. Ma tu, si erano in zeccata, se no ero tranquillo, ero camminese tranquillo. Gente che crede di fare un po', se da poco è... Ma poi ne c'è di giù, sa. E se me ne è giunti più passone, allora avete fatto una stranga d'inferno. Allora te lo posso dire io. Tanto non ve l'hanno fatto a fruttarmi il treno, non ve l'hanno fatto a dire su quei due, uno già giù mi seguito una banda di bezzi, ci devo brancare in cima. Poi l'altro mi stava venendo addosso e ha buscato anche quello, quello che è rimasto in terra ha preso e colpito tutti, però questo qui c'è, ma prima c'è ingessato, ma io da come intero una cosa, non ha già visto niente, ha già tutto fare di bezzi, che andare in terra non ha già visto, e l'ha già spaccato l'uccesso. Beh, è normale. Quando da voi l'uomo lo mandano in bestia, no, non capisce niente. Non sai cosa facevano questi dopo che è successo questa cosa, io un po' temevo, non sai che si vendicassero, no? Beh, non sai cosa facevano, cambiavano marciapiede quando mi vedevano. Questi rispettano, non ti sei fatto degli affari un culo. Perché se tu ti facevi un soggetto, se ne combinavano in una marea, in una colore. Ecco. Beh, questo sì. Però prima ero reattivo, reagivo molto di più. Adesso forse perché ho il cervello. E certe cose non mi vanno. Registrato con quel break, avanti. Ma c'è la scusa. Allora, ciao Gianni, buonasera, ciao Antonio, buonasera. Ciao, c'è anche Tornado. Ciao Massimiliano. E allora, Girella. No, negativo, siamo qua alla mezzogiorno. Abbiamo finito di piazzare il tutto e adesso abbiamo cenato là. Tempo di bere un bicchiere di vino, poi vado a godermi un po' di televisore nuovo. Ok, riprendi Giuseppe Tornado, buonasera e ben ascoltato. Buonasera a te e ben trovato Massimiliano, tutto a posto, sì. Sei a positivo Giuseppe, tutto a Roger qua. Andà bene Massimiliano, dai, e anche qui si tira il carretto, anche noi stanchi dopo una giornata di lavoro, però diciamo che è tutto ok, e avanti Gianni. E beh Massimiliano, come si vede questo televisore? Siamo la bomboletta, cazzo è bello, la verità è bello, non pensavo che aveva queste definizioni così. Si vede bene, là, diciamo si vede abbastanza bene. Cosa c'ha? Cosa è incorporato? Una città terrestre? Digito. Cosa c'ha? Non ho capito, avete parlato in due. Detto digitale c'ha incorporato. Sì, positivo, c'ha digitale terrestre incorporato, puoi metterci due penne USB e c'è altre cazzate al radio, là. K, per cosa la penne USB? Cosa del film? È positivo. Se non c'è niente, magari la televisione, che non li voglio rivedere mai niente anche su Sky, questi film in alta definizione che io li vedo. Ci prendi una chiavetta di computer, se c'è 2, 3, 5, 10 film, ti scegli quello che vuoi e te lo guardi. È proprio innovativo, come hanno fatto gli stereo, hanno fatto anche i televisori adesso. Vabbè. Vanno, no? È un bel grande, un bel grande. Cioè, perlomeno, per la saletta dove l'ho messo io è troppo grande anche secondo me. Massimiliano. E io? Quello tecnologia LED, vero? No, negativo, quello lì con l'offerta al Globo Sky non lo fanno. Ma mi si mi parla di stasera anche da LED? E invece non rientrava nella cosa, la pizza. E poi ti spiegano in verticale cosa è successo con questo televisore, là, diciamo. Diciamo che questo non era neanche nell'offerta e me l'hanno fatto rientrare, là. Ah, cappa. Sì, ho capito. Perché adesso sono usciti con quella tecnologia lì, a LED. È una televisione un po' particolare, all'alta definizione. Scusa già se ti ho interrotto. No, non c'è problema. Ma ce ne sono diversi adesso che stanno uscendo con nuove tecnologie di televisori. Ne ho visto con nuove voci che non ho mai sentito. Ma diciamo che noi ci accontentiamo ancora del Sony di 21 anni fa e va benissimo, stereofonico, si vede bene, un cinema come si vede, e vabbè c'è anche nelle dighe, quello lì è decennio. Ma già, tu non ci crederai, ma io il camera da letto, mi volevo mettere quelle LCD che avevo qua nella sala. L'ho provato, non mi piace più di tanto, il camera da letto c'è un 32 pollici, tubo cattolico, di chi che vale 30 anni. E si vede che è una meraviglia. E non lo cambierei, guarda, è che ne stanno facendo più che niente adesso così, perché ormai sono tutto a schermo piatto. Perché col tubo cattolico si vede meglio di questi al plasma, LCD e a coso. Comunque, tornando al discorso di quelli a LED, Antù, un 32 pollici viene a costare oltre le 1800 euro, capito? Quelle ultime generazioni che hanno fatto a LED. Non so, una novità, è ad alta definizione, molto... no, Massimiliano, questi nuovi che stanno uscendo sono molto migliori, insomma. Prima di tutto fanno male, meno male agli occhi. Sai cosa? Ci devi un po' abituare, ci deve. Tu, anche questo qua, questo preso io in alta definizione, è un full HD, capito? Ma tu mi parlavi poco fa che c'era, come si chiama, quello normale. Quello normale non ha niente a che vedere con quello. È tutta un'altra cosa. Non ti credo, io li ho visti tutti e due vicini. Ce n'erano quelli a LED e quelli normali, LCD normale. E diciamo che la definizione, se non te ne accorgi è minima, capito? Te ne accorgi lo sai quando, inizi a prendere televisori magari che oltrepassano i 46 pollici, capito? Allora lì la vedi la definizione, ma televisorini piccoli non te ne accorgi più di tanto. Ok, dai, riprendi Giuseppe, dimmi come, se ti piace questa radio, come la senti, com'è? È bella, Massimiliano, è veramente bella, bella, chiara, una bella radio, complimenti. Grazie a voi, questo è il Grano 48. Bello a Umma. Ai. Quello che quando lo spegni è normale, quando passi la calamita si attiva il mondo. E capa capa Massimiliano, va benissimo, è una bomba. Positivo, riprendi. Ma comunque io dico una cosa, ho detto, non i televisori, quelli grandi grandi che mettono nei locali, a me quelli non piacciono, io li vedo male. No, Luciano, non è che a Napoli, non schiaccio quelle molto apportate, non è che già li vedi male, il problema è che ti devi abituare a quel tipo di televisori, capito? E poi sono televisori che devi guardare a distanza, perché per esempio questo da 40 pollici che ho preso io, lo devi guardare, c'è scritto proprio anche nel libretto di istruzioni, lo devi guardare di una distanza di almeno 6 metri, devi essere lontano 6 metri, capito? Più lontano sei, più bene lo vedi. Però già, tornando al discorso, io quando mi devo guardare la televisione bene, me ne vado in camera da letto col tubo cattolico, quella di 30 anni, col 32 pollici che c'è in camera da letto, è una bomba. La preferisco, non so perché. Io qua c'ho un assurdo, c'ho un Sony a casa, 21 anni, che c'ha questo televisore, 21 anni, perché dico la verità, praticamente se l'ha cambiato mia comare, mi ha detto se lo volevo, io ho detto dammelo, e io ce l'avrò 7-8 anni, e prima ce l'avevano loro, quindi è un televisore che ha fatto il suo usaggio. Ma sono televisori che vanno sempre bene, capito già? Nel senso che anche se si dovessero rompere mettendo le corna, spendere 50, 60, anche 80 euro per riparare un televisore del genere, è sempre un piacere, capito? Perché non ti crede che questi così a schermo piatto siano molto migliori, ecco. Volendo, se ti vuoi anche eliminare il problema del digitale terrestre, te lo puoi inserire all'interno perché c'è tanto spazio, ci sono tante cose che si possono fare. E questi qua ormai, vabbè, è già integrato, però io, guarda, ti giuro, se a me mi si dovesse rompere il televisore che c'è in camera da letto, io lo aggiusto sicuramente, anche che aspetto 100 euro, non mi interessa. Ma io questo Sony che c'è, tu devi sentire quando ci sono programmi musicali o che cantano, tu devi sentire che audio che c'ha, è in stereofonia, capito? È l'audio stereofonico, quindi si sente proprio i bassi, tutto quanto. Io, cioè, spendendo a vero, mi prenderei tutto l'impianto completo. Tanto guarda che alla fine anche un televisore vecchio, vecchio nel senso vecchio, tipo quello che c'ha già, io l'ho visto, se lì ci metti un home theater 5+1, come lo vuoi chiamare, 4+1, un home theater, quello lì è una bomba. A me se mi piace non me sono, sono così, come si chiama, GPL, Kenwood, Sony e Bose, Easy Zoccane. Bose in primis, non è detto per ultimo, ma in primis sono le Bose. Le casse Bose sono fenomenali. Questo amico mio, la moglie, ne ha fatto una faccia, aveva le gesse da 100 watt, siccome davano fastidio in terra, quando aveva lavare cose, le era fatte regalare, ma le casse che volevano viste, Massimiliano. Si è preso queste cose che variano i giocattoli, si è attaccati al muro, un quadrato, è un sub che ha messo dietro dove c'è lo stereo, se devi sentire chi tocca qui davanti, pulito e forte. Ma tu non hai scritto le GPL, è poco zoccare. Io tanto le GPL le ho avute anche in macchina, figurati se le conosco. Capo, gli impianti della GPL è poco pompa, c'è un suono micidiale, mi piace molto, mi piacciono i Kenwood molto, i Sony. Secondo me sono le marche migliori, forse è una pelva. Come stereo la marca migliore è Alpine. Prima c'era anche la Clarion che era una buonissima marca. Sì, contrario lo stesso. Ma l'Alpani secondo me è stata sempre una delle prime. Ma guarda già, io per l'impianto che c'ho a casa, allora diciamo che come impianto di radio c'ho Yamaha, come la marca delle moto. Le colonnine che c'aveva con lo stereo lì le ho vendute, con i soldi che mi ho ricavato mi ho comprato due TV da 150 l'una. E ti dico che quando metti già a metà volume lo stereo, dentro la camera non ci stai. E già lo so, già lo so. Sì, ma come casse le marche più conosciute prima erano le Jensen. Le Jensen erano casse proprio da impianti, quelli che si facevano prima, nel senso che c'era amplificatore a parte, il piatto, il sintonizzatore, tutto quanto, però di diverse marche. Per dire, mio cognato ci aveva Marantz come amplificatore, i piatti ce li aveva Technis, sintonizzatore mi pare che fosse coso della Sony, insomma ci aveva diversi pisi, ce li ha tuttora mi ha detto che praticamente si è guastato l'amplificatore, non può fare nulla, lo doveva portare a aggiustare per una marega. Ma tu devi sentire quell'impianto, ci aveva le casse Jensen, prima Badu. Però era un bel impianto, poi era bello anche perché si accendevano i distorsori, c'aveva le lancette proprio tipo quelle dello Smitter, così più distorsori e a lucetta. Quelli sono i ricchi impianti che sono una meraviglia avere. Già lo so già come funziona, ce l'ha anche mio cugino così, sono tutti scompartimenti separati, tutti di diverse marche, però tutto marche buone, capito? E poi c'ha due CPL da 400 watt l'una, quando accende guarda, non ce n'è, come chiarezza di voce, come limpidità di musica, è spettacolare. Cappala, facciamo ripetere a Giuseppe che ho poi il parcheggio, avanti Giuseppe. Sì, grazie Massimiliano. Niente, perfettamente d'accordo con voi, marche memorabili e poi hanno segnato una storia con le marche lì, iniziando dai piatti, dalle piastre, anche dai mixer che io ho conosciuto bene, perché c'è stato un periodo che ho lavorato alcuni anni in radio e conosco molto bene quelle marche ed è un piacere lavorare con quelle marche lì, iniziando dai piatti Sony, dalle piastre tecniche, mi ricordo, dai bobinometri Sony, che erano uno spettacolo di musica e di limpidezza, come aiutatemi a dire, come risoluzione anche di suoni. Quindi niente, sono ad ascoltarvi, si ritornava indietro nel tempo di 20 anni, quindi figuratevi se non mi posso ricordare di quelle storie lì, anche se a dire la verità qualcosa mi è rimasta qui a casa di quelle marche lì, che oramai, anche se non è Alpine, che mi sa più di moda, anche se è una buonissima marca, però nonostante tutto anche le Clarion, diciamo che nonostante tutto si difendono anche loro su questo mercato che abbiamo. Un giorno le Alpine le faccio ascoltare come suona. Sì, l'Alpine lo conosco, Pioneer è una grandissima marca, però ti ripeto, nella nostra giovinezza quando trovavi un Sony, cavolo, eri già al settimo cielo. E per questo c'è anche il tasto verde della Philips. La Philips è una marca memorabile, io ho avuto un bel giradischi della Philips e è durato una vita. No, io tuttora ho dei piatti da vendere della Technis, molto bene. è della Technic, è una marca che ha segnato diciamo il passo nella nostra giovinezza, perché la Technic, chi è che non aveva a casa un piatto Technic a quell'epoca? Già, io penso qui a Bassari potevano essere, che ne so, su 1000 persone 900 ce l'avevano un piatto Technic a casa, io compreso, e attenzione, io ce l'ho solo il piatto, lo stesso professionale, però è solo diciamo che Technic mi piacevano molto, anche perché lui usava DJ eccetera eccetera. Questi qui sono proprio da DJ e sono quelli che hanno il piatto con cosa il raso per mettere il disco sopra, con la scritta DJ eccetera eccetera. E niente, dove l'hai fatto tu DJ? Che radio? La radio che c'era giù a Canica, l'Unione Sportiva, avevamo anche due campi di calcio. L'ho anche vista quella radio lì, come si chiamava non me lo ricordo più, però l'ho vista, ci facevamo le ricche con la mia ex. Sì, te lo dico subito, si chiamava Radio West Sassari. West Sassari, sì, me lo ricordo ancora. Sì, io sono venuto anche a vederla quella radio lì, lo sai. E abbiamo fatto, mi ricordo, abbiamo fatto diverse manifestazioni e soprattutto poi quando aprivamo giù la discoteca e tutti i DJ erano presenti, a meno che, cioè tutti i DJ meno le persone che quando era il loro turno lavoravano su un radio. Me le ricordo, non so tu che programma facevi. Ma guarda, io ho cominciato con un programma di musica italiana, il primo periodo che ero entrato facevo il programma dalle 10 a mezzanotte, poi ho cominciato a coprire diverse fasce orarie e niente, e abbiamo portato su quella radio a livelli di rompere le palle a Radio Venere. Poi a fine ha fatto quella radio. E poi con la radio ha fatto la fine, che meno male fanno tutte le radio che arrivate a un certo punto e sono mal gestite. E io sono stato uno dei primi ad abbandonare quando ho visto che le cose giravano bene, entravano dei soldini da poter reinvestire. E niente, i soldi non venivano investiti, i soldi se li mangiavano sempre le solite persone, dopodiché cosa fai? Sacrifichi un sacco di tempo della tua vita per impegnarti, perché ci vuole molto impegno per fare quelle, io lo chiamavo hobby, quel lobby lì, però non era riconosciuto, perché addirittura per acquistare un mixer nuovo, io mi ricordo sempre, avevamo acquistato in 3 DJ un mixer da 24 canali, che allora qui a Sassari non ce n'era manco uno, e figurati, io ti sto parlando ai tempi di Radio Giovani, noi ce l'avevamo, e avevamo preso a sonno il nostro amministratore, e chissà come, forse era mezzo addormentato ancora la mattina, eravamo riusciti a farglielo acquistare. Amico Roberto parla di radio, che lui in avuta la radio sua proprio. Veramente? E che radio è? Non me lo ricordo. Roberto Quadrato l'ha avuta la radio per tanti anni. Dice che andavano anche bene. Ma non sarà stata aspetta, io mi ricordo qui, ma con la zona ti ricordi, per caso viene Umberto Alba? No, non era quella lì, era la radio fascista, radio, che radio era chissà, non lo ricordo, mi sono andato anche a conoscerla questa qua. Oh, scusate, ma... Riprendo io, dai, è qua, mi stanno già chiamando. E niente, dai. Vi lascio al vostro corso, il bulldozer se ne passa il QRT, dai, condizioni precarie, la puppa che piange, e qua c'è da andare subito. Buonanotte e buon proseguimento di giornata, dai. Bulldozer QRT per me, ciao. Ciao, signor, buonanotte. Avanti, per avanti. Avanti Giuseppe, per favore non risponde, Giuseppe. Sì, ciao Massimiliano, buonanotte e ci sentiamo presto, ciao ciao. Ciao ciao Massimiliano, dai, ce la risentiamo, buonanotte. Di QRT passa in QRX visto che sono le 11 spaccate in questo momento. Niente, sia Gianni che Antonio, la più cordiale buonanotte, buon proseguimento di serata, buon lavoro per domani e ci risentiamo presto, dai. Niente, anche a voi la più cordiale buonanotte, ciao ciao. E aspetta Gesù un attimino, si chiama Radio Alternativa quella lì, buono. Kappa, Pierpa, Kappa. Sono Gianni, non ti amparo. Kappa, mia casino, sì già. E vabbè, se non fa queste d'altra parte. Kappa, ciao ciao, buonanotte Giuseppe, dai. Ce la risentiamo. Ciao Antonio, a presto, ciao ciao. Ciao ciao. Beh già, mi pare che tutta l'ora pure per me, eh? Vabbè, vabbè, buonanotte anche a te, buona vado anche a letto io, anche perché c'è stata una giornata, ci sta, sino a sabato sarà, perché noi chi viene sempre travagli, non viene mai un attimo a lasciare tranquillo, vabbè, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, volevo chiederti una cortesia, se era possibile. Narami. Come te lo posso dire? Potresti a vedere come segna questo smith? Aumentare il pago. Vabbè. Cazzo, sì, è come lo dicevo. Adesso sì, 9:30. Cazzo, migliorata anche la radio. No, volevo capire solo una cosa, mi sembra che segni giusto, anche se digitale è giusto, dai. Grazie della prova, ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao.